Gianpi. Buonasera a tutti. Tutti, cioè noi, vabbè. Cioè, riesce a per il cazzo persino all'inizio della diretta. Siamo online, siamo in onda, siamo... Buonasera, allora. Buonasera. Buonasera. Un po' di lag, certo. Pare, nella sede di Bologna. Ah sì, laghiamo. No, in realtà a me no, anche se mi sarebbe piaciuto che laggasse. Fare il ritardo con cui Gianfe ha dato buonasera a tutti. Buonasera. Dimmi. Sai che ora è questa? È l'ora del riassunto. Dun dun dun dun. Signor Master, vuol dire un'introduzione per chi ci ascolta dal podcast. Okay. Ciao Salla, spero che tu stia bene in questi una settimana. Sia tutto a posto e questa, okay, che stai ascoltando, come ben sai, è l'episodio di Zeros numero 8, che si intitola Il villaggio di Nash. Non si intitola La morte... E non c'entra un cazzo con la matematica. No! N-S-H? Sì. E come ogni serata, già. Buonasera e benvenuti. Già. Allora sì, volevo raccontarvi un po' la mia giornata. Niente, oggi è una giornata tranquilla. Sono solita cosa. Mi sono alzato, capito? Con gli amici. Poi andiamo a vedere la partita. E questa è la giornata. No, vabbè, allora, per riassunto, eravamo rimasti che... Ma il riassunto, quando lo devo fare dell'ultima puntata, io preludo che devo fare soltanto... Preludo, attenzione! Preludo? Cazzo sei, una melodia! Preludo, giustamente, perché sì. È una cosa che si prelude. Andante, vaffanculo. Il famoso verbo preludere, preludere... Sì. Che si deve raccontare soltanto l'ultima puntata, senza fare un'introduzione da quando siamo partiti. L'ultima puntata nasce, che noi eravamo approdati. Sì, nasce. Tecnicamente un riassunto fatto bene permette a chi vede per la prima volta... No, ma va bene, non farlo interrompere, dai, ma perché, poverino? Ok, va bene, non chiudo. Già abbiamo dei problemi gravi. Vai già. Se noi abbiamo oltre 100.000 follower, è per questo, perché io faccio dei riassunti estremamente concreti. Sì, non so. Capibili, riassunti capibili. Duttibili, vorresti dire, esatto. No, allora... come dice Marco, ha ragione, devo fare un riassunto che faccia capire all'utente medio quello che stiamo facendo. Allora, vabbè, ci sono incaricato una missione che aveva lo scopo di scoprire tipo quello che dovevano, una delle missioni segrete tipo del professore, e quindi dovevamo inseguire un tipo che secondo loro aveva delle informazioni che ci interessavano. Vabbè, nel viaggio andiamo verso con la nave, con la crociera, e che però facciamo naufraghiamo in un'isola. Naufragissimo. E alla fine, per colpa a quanto pare, non di forza maggiore, ma perché siamo stati evidentemente attaccati, quando una luce colpisce la nave e boom. Tipo Titanic. Ma non aveva detto prima che ripartiva dall'ultima sessione, ma sta a fare perché Marco mi ha detto che bisogna fare una cosa fatta bene. Ah, vabbè, permette all'utente medio di capire tutto. Non lo spettatore, ma l'utente. E niente, nell'arrivare nell'isola cerchiamo subito, diciamo, di provviste. Cerchiamo subito di trovare dei punti di sopravvivenza. E dopo aver, diciamo, parlato con quelli che erano dentro la nostra scialuppa di salvataggio, e quindi più o meno visto le condizioni di quelli che avevamo intorno, ci incamminiamo verso l'entroterra, dentro una foresta, per cercare di trovare non so, altri viveri, altra acqua, perché capiamo che non c'è più, cioè non sappiamo se possiamo sopravvivere, soprattutto perché a quanto pare tutti i nostri cellulari e attrezzature elettroniche sono fuori uso e quindi queste ci distruggono dal mondo. Quindi il nostro viaggio, Federico muore. No, muore oggi. Niente, è in procinto di morire, cioè è stato aggredito, siamo stati tutti un po' attaccati, siamo tutti malconci, ma continuiamo la nostra avventura. Ma dove vi trovate in questo momento? Cioè, non è la destinazione, è il viaggio che conta, secondo te. Esatto. Che non saprei, penso che non bisogna dire questa informazione, cioè... Lasciamo che la gente interpreta il posto come meglio crede. Siamo nell'entroterra dell'isola, cioè non abbiamo appena... Allora. Siamo nell'entroterra dell'isola, per precisione, in un villaggio sulla parete di una montagna, se ricordo bene, costruito alla base di una montagna, dove siamo stati attaccati da quelli che sembravano essere Zankis. Simili a quelli incontrati nei boschi bolognesi. Sì, siete entrati in una capanna, anzi in due capanne, su 12, e in una di queste avete trovato della gente. Dopodiché siete entrati in una grotta e avete visto affreschi e incisioni. Esatto. Affreschi direi più disegni al cazzo, ma vabbè, ok. E non avete idea di cosa raffigurino. Senza offesa per tutti i cavernicoli che ci stanno guardando. Gava è stato attaccato da un serpente e ha un problema alla gamba. Problemino. Quindi qualcuno sviluppa rapidamente poteri di cura o di rigenerazione o... Guardiamo i tentativi che mi faranno guadagnare un punto abilità in infermieristica. E poi morirai. Esatto, poi sarai morto e non dovrebbe muore. Siete in una grotta tutti insieme, direi. Sì, grotta. Aspetta, io un pezzo che mi sono perso, però Fede non stava da una parte tipo da solo con la gamba. Sì, forse è rimasto fuori da solo. Ah sì, è vero che siamo entrati noi per affrontare il Zan. Ho aggiornato le condizioni della mia gamba e allo stato attuale è un po' peggiorata. Sì. Aspetta, ma quello c'è che cos'è? Un rivolo nero che sale. Il morso di serpente. Vabbè, tanto adesso amputiamo, quindi. Esatto, aspettiamo. Ok. Hai detto che nella grotta non era una grotta profonda, se ricordo bene, era tipo una rientranza nella montagna. Allora, è una grotta, però è un unico grande stanzone con incisioni e sulla parete. Ok, non ci sono altre vie che vanno all'interno della montagna. No. Prima di tutto mi metto un attimo in orecchio per sentire se sento qualcuno che sta arrivando da fuori. Tirate tutti quelli dentro la grotta su riflessi. Ok. Anche di chi sei? No, io non faccio nulla. Allora, io sono nella grotta, scusate. Io ho fatto 2, arrivo subito. 2? Sì. 1 a posto, raga, oggi è proprio giornatona. Hai fatto le quote? 5. Sì, ho fatto le quote. 5. Cazzo, Gava non lo danno neanche. La quota è quella. Chi ha fatto 2 o meno? Grande. Okay. Voi 3? Quando si usa un D&D sempre attacchi estremi, vendi naturali al go-go. Qui in realtà è sfigatissimo anche in D&D. Comunque c'è fortunato in amore. Va bene, comunque dicevo, quelli più scarsi di voi In particolare qualcuno di voi ha fatto uno? Sì. Ok. Quello che ha fatto uno... Io l'ho fatto due, volevi? Pesta un piede a Edo. Allora, scusa Edo, veramente. Che si lascia sfuggire un ma che ca... ma porco... E un nugolo di pipistrelli vi passa sulle vostre teste, vi sbatte un po' addosso ed esce e va verso un'ala di una grotta. Della grotta. Buongiorno. Un'ala della grotta? Pipistrelli adesso iniziano a mordermi. Nel senso, hai smesso di parlare tu o si è bloccato l'audio? Quindi i pipistrelli non escono da dove siamo entrati noi, ma si dirigono verso un'altra ala della grotta. Vanno in una zona un po' più rincanita. Non seguire i pipistrelli. Vorrei andare a esaminare la zona dove sono andati i pipistrelli. Cosa mi ha detto? Tirato un dado da 10. Un dado da 10? Anzi, prima dico a tutti, state indietro e vado a vedere io da solo che si può rigenerare. Ah, pericolo. Io fatto 5. Hai fatto 5. Fai una prova di cercare. Che è riflessi? Sì. Cose tipo attualità mi aiuta. Okay. 4. Ok, quello che vedi è una piccola rientranza in cui i pipistrelli sono rintanati, probabilmente per stare più al buio. E fondamentalmente non vedi niente, ma una boccetta attira la tua attenzione. Una boccetta? Vabbè, non lo so. È tipo poggiata su qualcosa? No, è tipo per terra abbandonata. Ok, la raccolgo. Okay. E la esamino. A occhio nudo. Sembra piena di un liquido abbastanza viscoso. Ah, ok, è piena. Okay. Ah, sì, posso sì. Provare tipo a svitare il tappo e annusare il liquido per sentire se... Ok, sviti il tappo, annusi e muori. No, non mi aspettavo tipo la scena. È l'antidoto per me. Ha un odore abbastanza forte. E ha l'aspetto di una sorta di olio. Di olio? Ha un odore abbastanza forte, come se fosse un po' irrancidito. Ah, ma è extravergine? Ecco, tipo, adesso un tiro di conoscenze attualità potrebbe aiutarmi? O... No. Ok. Abbiamo... Io mi sono usato di programmi di Bear Grylls. Vabbè, se ti... nessuno ha fatto ingegneria chimica. Dannazio. No, dico, però se ti riavvicini a noi possiamo provare a vedere, non so. Telefono sa. No, non funziona il cellulare. Non ho fatto ingegneria chimica, comunque. Piuttosto la morte. Vedo nient'altro dove ho trovato la fialetta o... No, nient'altro. E non sembra ci sia un passaggio segreto nella grotta. Cazzo, o lo fai di proposto? No, torno dal gruppo. Questa è stata la mia esplorazione della grotta. Se gli altri vogliono fare qualcosa. Ma io sono già fuori, dopo che ho visto i pistelli già ero. A proposito, cosa vedo fuori? Ancora tutto tranquillo? Allora, come avevo detto, è un villaggio piccolino che ha 12 capanne e in un angolo, cioè in un lato del villaggio, c'è un piccolo ruscello. Allora, direi che in una di quelle 10 capanne rimanenti potrebbe esserci qualcosa per amputare la gamba di Federico. Allora. O per fare altro. Ormai è tardi. E l'uscello ci può servire come fonte d'acqua. Ma al contrario, sono più o meno le 6. Stai zombie? Come no, risposta in generale? Certo. Certo. È una cosa più semplice. Ragà, abbiamo risolto. Già mi ha detto basta far diventare Federico uno zombie. Risolto. cazzo, lo portiamo dietro con quel coso, il guinzaglio, poi con la catena. Sì, tipo come si chiama quella di qualche Dead, la nera. Mission, bravo. Bravo. Hai tempi da... Mentre sono ancora lì nella grotta, gli altri, non so, stanno parlando tra di loro. Oltre ai disegni, c'è qualcosa nella grotta, tipo casse o cose del genere. No. Proprio i disegni, abbiamo visto di che cos'erano? Mi pare che un paio di voi abbiano tirato e abbiano fatto dei tiri sega. Ci voglio dire, nel senso... Ah no, avevi detto che c'era una cosa tipo un demone sopra? No, quello che sembrava un diavoletto, mi ricordo male io. No, vi ho detto che raffigurava qualcosa che non mi ricordo. Mi sembra qualcosa con gli dèi? No. Allora no, sì. Questa cosa non ricordo. È come se fosse qualcosa di religioso relativo agli dèi. E... Tipo raffigurazioni di gente che si inchina o cose del genere? No, quello che vedi è tipo disegni di tipo divinità e disegni di gente che vive e che rimane nelle grotte. Ah, ok, però nulla. Ci sono anche, se guardi attentamente, delle iscrizioni. Possiamo capire di che iscrizioni? Tanti stanno parlando tra di loro, io intanto esamino le pareti della grotta con attenzione. Ok, fammi un tiro su mente. Tiro su mente? Faccio subito. Oh no. Boh, non sapresti. Sono geroglifici strani. Jacopo, tu che parli in tedesco. Sì. Sembra quasi sumero. Sembrano, sai, cazzo di pittogrammi. Oddio, io gioco da Assassin's Creed. Qualcuno ha fatto il linguistico qui. Linguistico antico, no, mi dispiace. Linguistico antico, no. Ma vabbè, provo a chiedere anche agli altri se hanno una qualche minima idea di cosa potrebbero essere. Scusa, ma c'è un'altra idea la boccetta, io ancora non ho capito. Intanto vi chiedo dei geroglifici e vi chiamo, okay. E vi chiamo tutti tipo, ragazzi venite qui, c'è questa cosa strana. Intanto Gava, tu sei fuori, da solo. Sì, Gava ormai... Nel senso che è fuori dal gioco o fuori dalla grotta? Fuori dal gioco non lo so. Era rimasto lontano dal villaggio. So che è lontano dal villaggio. In questo momento dovrebbe stare soffrendo come un cane, no? Sì, ti fa abbastanza, cioè senti la gamba che pulsa. Che cade. Si sì, da solo, pensa che bello. Se la senti è un buon segno comunque. Sì. Grazie Lu. No. Mi tiri sul morale così. Questa è la scena da Grotta di Superman. Ragazzi, sapete, avete idea di cosa potrebbe essere questo? E c'è la scena che si allarga sulla parete ricoperta di... Io appoggio la mano sulla parete e esplode. No, faccio 5 per tipo capire qualcosa. Lancio capire qualcosa. Tiro per decimo livello. Allora, anche lì sembra che sempre una storia di divinità. E quello che riesce a intuire è che è come se le divinità fossero, tra virgolette, malvagie, e vedi che, diciamo, le figure che mostrano la gente nelle grotte, ti sembra di capire che sia gente che si è rifugiata nelle grotte, non che è andata a pregarli, eccetera. Ma succede qualcosa quando appoggio la mano, o...? Senti la roccia. E si scoprì che le scritture erano basate su un antico dialetto marchigiano. Ma come minimo la pittura era la base di arsenico, di cioè... Va bene, okay. Torno all'esterno perché ci sono ancora i... Allora, prima di procedere cerchiamo di organizzarci. Mi ha detto che non abbiamo ancora trovato niente riguardo acqua o cibo, però abbiamo visto che c'è un un fiumiciattolo più vicino. Sì. Allora, innanzitutto manderei qualcuno a controllare Gava. Voi cominciate ad avere famine? Provviste le abbiamo finite, giusto? Perché sì, era... Va bene, allora io dico... No, in realtà è ancora un po' di quel portati dietro. Scusa, in realtà vi siete portati dietro, non mi ricordo che provviste. Abbastanza per sopravvivere 10 giorni. No, avete 10 razioni, non mi ricordo se ne avete lasciate o ve le siete prese tutte. 10 razioni? Non lasciate, tipo, avevamo portato dietro per resistere una giornata. Ma io ho preso un'altra. Avete preso via 6 razioni, fondamentalmente. Cosa del genere, sì. Okay. Sì, avevamo lasciato... Che non avete ancora mangiato, però. Direi di no, perché non è ancora passato un... Sì, no, ancora il primo giorno di viaggio. Quindi mangiamo se no perdiamo massa, dai. Possiamo andarci dentro la grotta. Ci sta. Perché possiamo andare a prendere Gava, per favore? Allora, io procederei in questo modo. Manderei qualcuno a controllare come sta Gava e magari a portarlo nella grotta, dove sembra il posto per il momento. Professore di caporal maggiore. Sì, prego, andate a controllare Gava, portatelo qui. Il vero leader propone e fa, non ordina agli altri cosa fare. Non mi lasciate finire, eh? Allora, un po' di rispetto per chi si è appena fatto picchiare a sangue da degli zombie. Allora, mi sembra di aver dimostrato bene la mia lealtà verso il gruppo in questo momento. Questa è la scena drammatica in cui c'è la musica di sottofondo. Tipo io e Jacopo ci strattoniamo un pochino per rendere drammatica ancora di più la scena. Noto una drammaticità... palpabile. Ok, allora aspetta, quindi tu stai ancora parlando o qualcuno è già andato? No, da Gava parlando io. Facciamo così: Edo, tu vai a controllare Gava e portalo qui nella grotta, noi quattro andiamo a esplorare il resto del villaggio per vedere se ci sono altri zombie o qualche altro pericolo. In caso contrario, direi che possiamo riposare nella grotta per stanotte. Allora, io dopo aver sparato un dio quando mi hanno cercato il piede, aver sparato un altro dio alzandomi che mi venivano addosso i bistrelli, ascolto Marco e mi dirigo verso Gava borbottando un po' di blasfemie così a caso. Ok. Edo, voglio che tu sappia che ho scelto te solo perché sei il meno utile in battaglia in questo momento. Ma questo lo dici in game o è out of game? No, questo lo dico a te mentre ti stai avviando. Dico, no, Edo, sappi che ho scelto te solo perché... allora mi giro, ti guardo e ti dico, fanculo, facci tu allora. E mi siedo per terra. mi sembra una cosa favorevole, voglio dire... Se ci arrivano addosso gli zombie, hai acquistato tutta la mia fiducia, ci vado io. Esatto. Ci vado pure io. Hai saputo prendere Edoardo. Voleva fare una cosa e ne conta non farla. Mi sembra giusto condividere il mio processo mentale con gli altri. Volevo buffare il potere di Edo. Come? Okay. Non ci credo. Apri i portali. Secondo me, non so se è previsto dalle regole, non mi interessa. Se passi il round a difenderti, cioè senza attaccare, in difesa totale, puoi usare il tuo potere come reazione, quindi spendendo un punto fatica, aprendolo per difendere una locazione. Quindi puoi usarlo per difendere, aprire il portale lì, e se riesci a difendere, invece di colpire te, colpisce dentro il portale. Quindi se uno ti spara e tu hai il round di difesa occupato, puoi fare una prova di riflessi per vedere se riesci a... Ok, ma domanda, devo, tra virgolette, indovinare la locazione oppure... No, fai un tiro di riflessi. Ah, va bene. Come per schivare, fondamentalmente. È tipo una parata con il suo portale. Sì, esatto. Ok, già avevo parlato, mi sa, una volta. Io scudo portale. Spoiler, come faceva il falso Yak nella... Però sarei la valer spada. Esatto, è come faccio io col mio potere di deflettere. Volevo dire... No, non sono ancora arrivato alla tua puntata. No, non l'ho ancora usato. Sì, come fa il falso Yak. Una cosa, io ho preso un potere secondario di quelli da 15. Ti è piaciuto il colpo di scena, Marco? Cos'hai fatto? È stato interessante, è stato interessante. Ho preso il potere raggi, Virginia. 15 punti esperienza. Però ho tirato io i dadi, non so se per te va bene. No, non va bene. Beh, perché 15 non dovrebbe essere 20? Perché valutavo 15 quello lì, raggi. Quando sei tiro, che paga 20 e prendere una po'. Io 15. Raggi, incipite, super forza e... è una cosa di fini, è vero. Cioè, il dominio l'hai già scelto, l'hai già tirato. Il dominio è laser. Se lo potessi tornare indietro. E il difetto è crollo mentale. Non ammazzerebbe il crollo esistente. No, mi farei insegnare il suo potere. Il difetto ovviamente sarà condizione contraria. Power power. Cioè? Spari raggi da cosa, scusa? Tipo, ogni turno mi devo calare i pantaloni. No, dalla mano. Aspetta, nel senso che lo tieni in mano per mirare? Oppure... Sì, a me sembra che sono un grido di battaglia tipo... Capezzoli divini! Facciamo che... Aspetta. No, fallo fare dagli occhi, ti prego. È troppo figo dagli occhi. No, io pensavo dal pene o dal culo, però è meglio tipo... Dalle narici è bellissimo, tipo... Dalle orecchie. No, vabbè, sei tirato e ti viene... Cos'è che ti è venuto, hai detto? Cosa, di dominio? Dominio. Sì, preferirei li tiraste in diretta, però vabbè. Ritirali qua, tanto... No, vabbè, pace. Dai. Ritirali, tanto io ruolo un pochino il discorso che ti faccio... Ti è venuto crollo mentale? Sì. Va bene. No, vuoi di bar, posso anche dire tutto? Dalle mani, hai detto? Sì. Il duro. Ora si chiamano mani. Ora si chiama. Okay. Si manifesterà in futuro questo potere. No, te lo dico così poi. Va bene, c'è il difetto peggiore che potesse capitarti. Ok. Allora aspetta, per fare bene la scena. Edo, aspetta, lascia che ti spieghi il mio ragionamento. Quello che teme è che il villaggio non sia ancora del tutto sicuro. Ci potrebbero essere altri come quelli che abbiamo incontrato prima. E non mi piace lasciare Gava nelle sue condizioni dove si trova ora. E tu questo... Per questo ho pensato anche a te. Con il tuo potere di teletrasporto, evitare i pericoli dovrebbe essere abbastanza facile per te. Sinceramente, sì. Per poter venire in mezzo al mare a calcio, sì. In battaglia non ti vedo come il più... Overpower. Il tuo potere non è quello che abbiamo utilizzato di più per ora in battaglia. Solo questo. Ma non intendo mettere... Perché è quello di Gava, scusa? O il mio? A me... Io ho tirato il serpente mentre stava per attaccarmi, è stato troppo veloce per i miei riflessi. Con questo però, Edo, non voglio mettere in dubbio la tua realtà verso il gruppo, o il tuo coraggio, o la tua passione, o i tuoi addominali d'acciaio, Edo. Faccio finta di ascoltarti. Ma in realtà dentro di me sto pensando, ma guarda sto coglione che ora cerca di riaggiustare quello che ha detto. Solo perché ha quelle cazzo di mani deformi di merda. Esatto. Sto mettendo una mano molto poco confortevole sulle spalle, tipo ti punge un po' per la peluria, per... Che schifo. Per le unghie che ti penetrano un po' nella pelle, giusto? Giusto io di merda, ma che vuoi? No, faccio finta di ascoltarti, ma in realtà non ti sto ascoltando, però capisco che effettivamente forse è la cosa migliore e quindi vado da Gava. Però sì, in effetti è pericoloso andare completamente da solo, scegli qualcun altro che venga con te. Scelgo il mio manganello. Che il governo fare meno danni del cazzo di bastone, quindi quando dici cazzo, okay, infatti non è, una, è di certo meglio di alcune delle possibilità che grazie, tu sì che ci sai sollevare i morali, è un D4 in sociale. Dicevo, non hai ascoltato le puntate, quindi non hai ascoltato quando faccio, quando non mi ricordo chi mi dice tipo, ma scusa, tutti tanto abbiamo le stesse caratteristiche, tutti abbiamo... Non ti sento più, non sei nato proprio. Dicevo, ora? Adesso sì. Scusate. Dicevo, tutti abbiamo, qualcuno mi ha detto tipo, tutti abbiamo un D6 ovunque, ho detto no, beh, dipende. Tipo, Marco ha un D4 in sociale, fa, come ha un D4 in sociale? Io, sì, perché è brutto al cazzo. Ma povero Marco, cioè no, è il personaggio. No, non il giocatore. Ti voglio bene comunque. Ah, sicuramente perché interpretano noi stessi, uno dice, esatto. Non sono ancora arrivato a quel punto. Ho detto il personaggio, non il giocatore. Lo stavo dicendo, porca miseria, ho perso il filo del discorso. E lo esce e va verso e va verso ieri abbiamo giocato e ho ancora le maschere e va verso Gava e trovi Edo Gava in un angolo seduto per terra di fianco a due alberi che si sta impacchettando con foglie, erba e sangue secco la gamba. Ce l'ha. Che ho proprio. A me lo muore con dignità. Di chi è il nostro? Ma sai di chi è? Di Marco. Sai che lui si rigenera? Quindi dato che lui ha questo potere di rigenerare, l'ho usato come crema curativa. Ah sì sì, funzionerà. Ah, ecco quello che volevo dire. Mi sorprende che con tutta sta cosa dell'isola non abbiamo fatto più battute su Bergvirs o roba del genere. Era quello. Giusto dire. Che Edo, adesso l'importante è sopravvivere. Bene, la propria tranquillo, adesso vedo che la gamba è un po' rossa, ma è il rosso del sangue, non perché la gamba è peggiorata. Ah, io faccio finta anche qui di dargli ragione e rimango con lui. Ottimo. Marco, perché fai bere un po' della tua urina pure? Magari quello è la pura. Jacopo, forse è l'unica cosa che potremmo fare per sopravvivere. Per sopravvivere. Oppure fargli fare un po' di Gianni Morano. Ok, io invece con gli altri quattro vorrei andare a fare tipo un'altra piccola perlustrazione del villaggio per vedere se ci sono altri. Ok, fatemi tutti una prova di cercare. Una cosa sola, i tizi erano venuti addosso a noi con delle lance, se ricordo bene, giusto? No, vi hanno morso. Assurdo. C'era uno che aveva una lancia? No. Ok, mi ricordavo male allora. Ho fatto 5 di nuovo. Wow. Mi hai detto di, scusami? Quei 4 che cercano facciano una prova di cercare. 4. No, no, no. Tu non di 6, Fede, non di 6. 5. 5 ho fatto. Luca? 6. Ok. Adesso tu, una alla volta, tirate il dado da 10. Ok. Chi va per primo, dai. Aspetta. Io ho fatto 10. Jacopo, 10? Sì. Come 10? Ok. E che cazzo bisogna tirare? Che dato bisogna tirare? Da 10. Da di 10? Ma veramente? Hai tirato un di 6. Pure adesso. No, dopo che hai tirato quello, devi tirare un di 10. Già, ti ricordi quel messaggio che ti ho mandato oggi in cui dovevi ascoltare? Cioè, il messaggio devi leggere, ma c'era scritto che dovevi ascoltare. Salla, però non ha ascoltato il messaggio, quello è il punto. Devo mandargli un audio. Jump, tira il dado 10. 7, ha fatto 7. Ha fatto 7, 7. Che culo di merda. Perché? Luca? È successo? Lo tiro in diretta, così. 5. Ok. Marco? 1. Ah! Oh. Mi dispiace, oggi sarò il vostro salvatore, ma anche la vostra rovina. No, mi sa che sono la rovina qua, se così così. Allora, sono la colla che tiene unito il gruppo, già. Ah, per prima cosa, scusami. Volevo chiedervi se andate in... Già, zitto. Volevo chiedervi se andate insieme o separati. fatto il gruppo da 4 giusto per stare insieme. Io volevo stare. Io ho chiesto per essere sicuro. Ah, io sto lontano. Diciamo come non ogni dimora. Separiamoci. Allora entrate tutti insieme in queste 10 capanne. Con circospezione. Ok. In una vedete appoggiato in un angolo una sorta di pelle conciata e di fianco a questa una lancia. Ah, mia lancia, lo dico. Hanno qualcosa di strano, nel senso, perché non le notiamo proprio quelle? Perché nelle altre capanne erano solo otri rotti e robe come se la gente fosse scappata, mentre qua c'è una lancia, se volete, e una pelle. E pelle conciata, nel senso di tipo pelle conciata e messa in modo che sembra possa occultare qualcuno in questo momento? O... No, è come, sai, le pelli quelle nei... tipo cornice. A mo' di arazzo, esatto. Tirata. Si è tirato delle corde che fanno i cacciatori. Ok, vado a prendere la lancia per passarla a Giampe. Ah, grazie. Ok, chi si tiene la lancia se la segni in equipaggiamento. Ok. Senti, quando è alta la lancia? Perché siccome è alta moltissimo, non vorrei avere tipo la lancia che devo tenere con quattro mani. La lancia è un'arma che viene usata con due mani. Tu la puoi far diventare tipo, non so, una alabarda con il tuo potere. Alabarda di Giampe! Dov'è la... E fa proprio vicino, così faccio l'upgrade. Posso rubare la pelle conciata in qualche modo? Togliendo dal... Sì. Okay. Recuperiamo che fare, ovviamente. No, non è più quello che mi interessa. Mi ricordo che ma la lancia ci cioè, ricorda cosa di pare. Giampi, invece che dire puttanate. Allora, la lancia deve essere trasportata, può essere trasportata anche con una mano sola. Però per usarla per combattere devi usare due mani. Puoi colpire bersagli distanti fino a 3 metri, ma se sono a contatto con te non la puoi usare. Ok, Jacopo, la vuoi? No, grazie. La lancia fa un D10 di danno. Okay, se non ve la segnate nella scheda, non ce l'avete. Jacopo, puoi segnarti pelle di mammifero generica. Spero che non sia pelle di impiegato, pelle di ragioniere. Ok. E niente, intanto allora, ha qualche proprietà, la pelle ci sembra resistente, che possa essere usata per farsi, per pararsi, per difendersi. È una pelle. No, speravo di farci dei braccialetti dell'amicizia, Marco, tranquillo. La usiamo per quando Gian Cava avrà i tremiti di freddo per l'inverno. No, facciamo un'altra gamba, tipo la protesi per... Ok, cercando nelle altre capanne, trovate anche un'altra roba, in un'altra capanna, che è una boccetta piena dello stesso liquido che ha trovato Marco. Mi sono completamente dimenticato di farvi vedere con l'eccitazione dei messaggi nella grotta. Quando la troviamo dico, guardate, ne ho trovata, mi ero scordato, ma ne ho trovata uno uguale nella grotta. Ah, grazie. Ce l'ho detto ora. Cosa c'è dentro? Ti possa... È questo strano liquido oleoso, da un odore pungente e un retrogusto di more. No. Morte. Allora, io vorrei osservare la bottiglietta perché mi chiedevo una cosa pure da prima, però prima non l'avevo vista. Può essere la lavorazione del vetro della bottiglietta, può essere qualcosa fabbricato dagli aborigeni che sono allo stato primitivo? Sì. Ok. Potrebbero... Quindi... Come? Anche la boccetta di vetro, intende proprio. Sì, sì. Okay. Ah, cavolo, sono bravi. Ma siamo a Murano. Sabbia. Magari hanno un negozio su eBay, che ne sappiamo. Posso fare un tiro per vedere se magari ho olio tipo per lampade, per torce? E come faresti a scoprirlo? Provo a accenderlo. Per esaminarlo, aspettiamo di essere tutti insieme. Magari 6 menti sono meglio di uno. Ok. 6 tiri sono meglio di uno. Mentre esplorate le capanne, Ah, nel farlo intanto magari guardo se ci sono cose tipo anfore o vasi ancora utilizzabili nel villaggio da poter usare come recipienti per l'acqua. Marco, tira su riflessi. Ovviamente. Qui sono quello davanti a tutti, sono quello che fa da scudo umano. No. Ho tirato casualmente, non Marco, è che... Fatto uno. Gava, la tua applicazione fa un po' merda stasera, giusto per dire. Ci controllerò. Vedrò se il tuo feedback è corretto. Sui di 6 mi tiro al naturale, al Vremont. Ok. Dai, no? Fai del tuo peggio, Master. Fai del tuo peggio. Fai del tuo peggio. Quanto hai fatto? Uno? Uno. Un serpente ti morde. Wow. Mentre cerchi un braccio. Vabbè. Proprio tanto se lo rigeneriamo. Destro o sinistro? Il braccio destro. Taglialo. No, che fa? Danni. Allora, tecnicamente... No, non è vero, scherzavo, ti ha fatto 10 danni. Ok. È vero, aveva fatto 80 danni, ma sei buono. No, no, ti ha fatto 10 danni, non può fare più di 10 danni. Perché, bene, perché sennò andavo a meno 10 con 80. No, ha fatto un tiro per colpire, ha fatto 12. Ok, 10 danni. A 10 danni e si ritrae dal tuo braccio e tocca a te e a tutti voi. Ok, se ne va mi continua ad attaccare. No, continua a guardarti lì. Penso in merda. Ok, è tipo, mi sembra tipo pitone o serpente veleno. No, è un serpente corallo. Nel senso, c'è una bella correlazione variopinta e la testa a punta, o... No, è tipo pitone. Ok, va bene. Se mi ha solo ferito, allora... Niente. Gianfe, passami la lancia. Il lancio? Come lancia, aspetta. Hai presente in Sventura, Gianfe? Lancia via lancia! Esatto. No, niente, prendo la lancia da Gianfe e poi... La uso per scacciarlo via, tipo per intimargli di andare. Si piglia dentro sulla lancia e poi va. Non voglio ucciderlo o cose del genere. Lo mando solo via, lo scaccio via. Giustamente. Tira su. A meno che qualcuno vuole serpente per cena. Esatto, lo stavo per assolutamente dire. Assolutamente sì. Ragazzi, ma se usiamo il veleno del serpente per curare. Qualcuno sa cucinare il serpente in questo gruppo? Ci vuole, non è neanche velenoso. Lo butti sull'acqua calda, lo lessi. La famosa acqua calda. Ok, allora restando a debita distanza vorrei provare a trapassare la testa del serpente. Cioè, cosa dici, Luca, scusa? No, siamo sicuri che non sia velenoso? Io non ho capito. Non ha gli stessi colori di quello che ha morso Gao. Ok, nel senso... Okay. È uno di quelli grossi che sembra che ti vogliono, che ti stritolino le prede per ucciderle o... È un serpente molto più grande, giallo. Giallo, va bene. Non dovrebbero essere velenosi. D'accordo. No, dai, in fase mi spiace Pitone, ma dovrei essere la nostra cerca per schizzarlo con la lancia. Ti colpire. Ok, fisico, giusto? Con la lancia. Cioè ti allontani. Mi allontano un po', mi faccio passare la lancia da Giampe e poi lo infilzo. Tira per colpire. 6. Colpito. Morto. E almeno abbiamo la cena a sto punto. Si può mangiare, sì. Viva! Hai forse che da qua faccio due esercizioni. Ok. Un po' mi dispiace, che voglio dire. Cosa dici, Edo, scusa? No, dicevo una puttanata. Allora, un'ultima cosa che trovate cercando in una capanna. Marco, qualcuno si scriva serpente da mangiare intanto. Io scrivo io. Sì, cercando in una capanna. Marco, vedi una sorta di piccolo otre, tipo grande così. No, un po' più piccolo, tipo come se fosse una bottiglia da un litro, fa conto. Perfetto. Cioè un barattolo da un litro. Sì. Più o meno, sì. E, aprendolo, se lo apri. Sì, lo esamino, voglio vedere cosa c'è dentro. Ok. Un c'è altro serpente schizza fuori. C'è una sostanza biancastra. No, è andato di nuovo via l'audio. Scusate. Ora? Ok. C'è una sostanza biancastra. Mettici la mano. Che schifo, Marco, vai. Che schifo. Odore? Esatto, odore. Odore. È un po'... è come un odore un po' fruttato, un po' irrancidito. Questo perché abbiamo mangiato molto ananas, secondo me, il tipo. Tipo... era un'anfora in una casa, giusto? Una zona sì. Che può essere... che sembrava la cucina, la zona, tipo... No, l'angolo cucina delle capanne. Non c'è una cucina nella capanna. C'è la cucina dell'IKEA anche sul disco. No. Ok, provo comunque perché mi sento... avventuroso e per sopravvivere tipo intingolo il mignolo e poi assaggio un pochino. Ok, ti sembra come se fosse... hai mai bevuto tipo il vino di riso? No, ma ok, alcolici è una roba abbastanza è una roba abbastanza pungente, come se fosse fermentata. Ok. E però non ha un sapore un po' arancidino, nascosto, però non è malvagia, cioè non è una roba tossica. Okay. Un po' acquosa, non sa di un granché. Aggiungiamo a tutto il resto la cosa che non sta sembra alcolica. Sembra? Mi sembra alcolica? E no. Però era per farti un esempio di... No, ok, perfetto. L'alcol non brucia quando qua l'ho scoperto. Ok. Cioè sicuramente sembra tipo latte il colore, ma sicuramente è una roba che non è latte, è tipo vegetale. Ragazzi, c'è anche questa qui, se qualcuno vuole... Ok. Niente, se a questo punto abbiamo finito, io tornerei alla grotta, sinceramente, a incontrarci con gli altri. Okay. Tu, Edo e Gava, siete andati verso la grotta o state lì a pregare? Che guarisca. Boh, io direi che lo scorto dentro la grotta, magari siamo un po' più riparati e sicuri. Okay. Grazie. Che ci troviamo lì. Si è fatta sera, si è fatta, sta calando il sole, avete parecchia fame e anche un po' di sete. E siete nella grotta al buio. Raga, avete trovato qualcosa nelle capanne? Siete quasi al buio. Raga, prima che faccia buio, io direi di riposarci qui per stanotte. Dovremmo cercare di accendere un fuoco il prima possibile, altrimenti saremo completamente al buio. Tranquillo. Se però vuoi accendere un fuoco, datti fuoco. Minchia, Edo, ho detto una cosa, cioè, siamo amici da sempre. L'ha presa bene la cosa del segno dei combattenti. Sì, esattamente. Ok, qualcuno vuole venire cinque resentimento per la successione. Allora, io non rispondo neanche a Fede, perché praticamente dopo che abbiamo preso il serpente me lo sono legato tipo, capito, tipo boa così e me lo porto tipo trofeo in giro. E quindi propongo con il non fuoco è tanto di fare grande, cioè è lungo, ma non è un'anaconda. Ok, va bene. Però comunque propongo di arrostirlo. E comunque me lo leggo al collo con Paris. Beh, adesso arriva. Come? Ok, allora io e Jacopo andiamo a raccogliere della legna e voi restate qui a preparare il serpente o a riposarvi intanto. Può andare bene come idea? Sì. io lo scuoio, così faccio un po' di operazione. Allora, tu, Luca, mi tiri abilità riflessi, oppure la tua speciale? Cosa mia speciale? La tua abilità speciale, scuoiare gli animali. Lavorazione del porco, penso, aiuti. Sì. Bene. Questo è come un porco, ma un po' più lungo. Adesso fa uno. Porcobra, il porcobra è lui. Porcobra. 7. Ok. Intanto... di pitone che sono una... Jacopo e Marco, prendete un punto fatica. Ok. Oh, e fate una prova di fatica. Prova di fatica. Oh. Non pensavo, va bene. Ok. C'è stata un po' di fatica. Volevi? E la Madonna, ho fatto 7 nella prova di fatica. Wow. Jacopo? Io ho fatto 4. Su? 4. Beh, ottimo direi. Trovate abbastanza legna per tenere il fuoco per... 6 secondi. 4 ore. Poi domanda: delle 10 capanne rimaste, quante ne abbiamo visitate? 2? No, tutte. Ci passavano tutte 10 erano queste. Quindi solo quelle due cose abbiamo trovato. Okay. Facciamo le capanne. Io prendo anche un sasso tipo per fare un acciarino per aiutarci dopo. Un paio di. Ok. Allora, riuscite a accendere il fuoco e Odys ha fatto un ottimo lavoro con il serpente, riesce a darvi una razione di cibo un po' streminzito per la serata. Ci sta. Per bere? C'è un ruscello lì vicino, pensavo di andare a prendere... Nel farlo insieme ad andare a prendere la legna. Anche. Ok, quindi raccogliete dell'acqua? Per quello che cercavo anfore nelle case, se... Ok, ci sta che trovi delle sorte di secchi un po' più. Anche grandi. Tipo dei cocci, mi basta perché sì, no, sì. Dell'acqua. E bevete l'acqua del ruscello. Che aspetta, la presa. Non so se l'abbiamo bevuta. Intanto presa, perché non si beve mai l'acqua dal ruscello così a botte. Si fa bollirne un po'. Se riusciamo a bollirne un po', io lo farei volentieri, sinceramente. Tira su mente. Io lo so io che devi bollire l'acqua presa da un ruscello, ma va bene, ho fatto 4. Ok, riesci a arrangiare i cocci in modo da metterli sul fuoco e far bollire l'acqua, che tra l'altro era anche potabile. E... per sicurezza, non si... E niente, ok, avete da mangiare e da bere. Ottimo. Però sì, ci hanno costruito un villaggio intorno che poi l'acqua non fosse potabile, era un po'... Esatto. Per sicurezza. Vai. Durante la serata, così, diamo un'occhiata alla gamba di Gava. Sì. Tanto sappiamo già quella malata per curarla e quella sana per recitarci un po', tipo... Aspetta, ma io c'ho un'idea! Prendiamo un disinfettante e bruciamo la gamba! Così si disinfetta! Gava, quanti punti ferita hai su quella gamba? Troppi. La risposta è troppi. Due. Ok, il porcobra... Dove l'hai trovato questo? Non so, su internet c'è tutto. Cioè non c'è neanche... Ah, l'hai proprio cercata? Su Skype mi sarà... Spero sia Creative Commons. Comunque, dicevo... quanti punti ferita hai? Punti ferita hai perso sulla gamba ferita? 70. Quanti? 70. 70 nei no, li ho persi. Hai 30 punti vita nella gamba in questo momento. Sì. Va bene. Allora, la gamba sta veramente molto male. Nel senso che si è gonfiata tantissimo. Chissà come perché. Se si fosse infettata. Ho l'idea. Avevamo sangue compatibile. Nessuno è in grado di curare ferite. Il rivolino nero che stava salendo verso l'inguine non lo vedi neanche più dal granché gonfia e infetta. Ah, vuol dire che non c'è più. Vuol dire che è passata, adesso ci dormi solo. No, raga, avete trovato qualcosa nelle capanne? Non c'è un attimo. Dai, datemi tutte le porzioni e cose strane che avete trovato. Fagli bere tutto quanto, Marco. Qualcosa. A questo punto volevo dire... Allora, abbiamo trovato questo. Vi faccio vedere sia la boccia di... quello che sembra latte, non latte, vino, non vino. Questa boccia strana, liquido bianco. Nonché queste fialette con della strana sostanza. Sì. Qualcuno ha qualche idea di che cosa possa essere? O... Vabbè, io per sicurezza ne proverei un po', poi se funziona bene. Stanno per gesti lo stesso, come tipo si rende. Tanto peggio di così ormai. Fare. Sai quando provano le intolleranze che fanno i quadratini e in ogni quadratino mettono una sostanza diversa? Io provo così con le boccette che avete trovato. Grande Gava, così ti voglio. Allora, diciamo questo è un punto esperienza, eh? Aspetta. Qualcuno qui qualcuno può aiutarmi a tipo identificare la cosa, non so per quale miracolo divino, ma possiamo. Allora sì, la boccetta la do a Gava e la picco in bocca. No, non è da bere. Raga, vi prego, fate parlare a Luca, poraccio, sto soffrendo per lui. Allora, proviamo a ragionare su questa cosa. Solo noi abbiamo incontrato due serpenti. Se sono frequenti, è ragionevole che gli abitanti del villaggio abbiano qualche liquido, qualcosa che magari, che ne so, agisca contro il veleno. Forse. Oppure non girano per la foresta come dei coglioni. Oppure non girano per la foresta come coglioni. Ma la trama, diciamo, di questo... Lo dico proprio nella cosa, lo dico proprio nella campagna, dico, ragazzi, siamo arrivati fino a qui, ci sarà una delle due boccette che serve a Federico, cioè... Ok. Una delle due lo salverà. Io nella vita vera penso di essere in un racconto, quindi chiaramente penserei in questa maniera. Che palle, che racconto migliore. Questa cosa. In assoluto, non nel tuo caso relativo. Tanto Sala ti dico, io dopo un'ora riattivo, quando mi sento un po' riposato, riattivo il mio potere per rigenerarmi un po' le ferite che ho subito. Okay. Questo te lo dicevo io. Sì, e poi... diciamo che con del connettore Z probabilmente senti che rigeneresti molto meglio. Le però voglio dire, cioè... Uno, se non ce l'hai, uno si accontenta, no? Beh, insomma, un po', però ti dà fastidio non averlo. Aspetta, però nessuna di quelle boccette, roba lì, era il connettore Z, mi dava l'idea. Marco, quando attivi il potere, io cerco di venire vicino a te, di stare vicino a te, perché magari se attivi il potere, attivi anche l'impatto, capito? E quindi si attiva l'impatto. Oh, dai, magari funziona. Va bene. Ora. No, l'impacco spero che ti sia stato tolto, perché faceva schifo solo a guardarlo. Innanzitutto sì, rimuovo quell'impacco che probabilmente è quello che ha peggiorato la ferita. Mi accompagnate al fiume a lavare la gamba? Sì, prendo l'acqua che abbiamo bollito, ne uso un po' per cercare di pulire al meglio la ferita. Ok. Intanto... non so, condivido con gli altri quel liquido, quella brocca di liquido che ci hai fatto trovare, quella, quella specie di alcol, non alcol, vino, vino. Poi, disperato a questo punto, a un certo punto della serata, prendo una di quelle due boccette che abbiamo trovato, prendo un po' di liquido e provo a spalmarmelo un po' sul braccio, per vedere se... ho reazioni del tipo il braccio mi si scioglie o... Tira un dado percentuale. Percentuale addirittura? Sì. Sento Jamf silenzioso, sono un po' preoccupato. Più che altro sto pensando a cosa dover fare, tipo sopravviviamo oppure no? No, è l'unico modo per sopravvivere. Quanto hai fatto? Comunque ho fatto 78. 7-8. Okay. Allora, ha la consistenza di un olio, sembra come se tu avessi preso dell'olio di semi e te lo fossi spalmato, praticamente adesso non è esattamente olio di semi. Sì, sono un dito, non di più. Esatto, come se tu ti fossi unto un dito e te lo fossi spalmato sulla pelle. Effetti collaterali... No. Fa autore strano. Aspetta, questo è quello delle boccette piccole, giusto? Sì. Io dai, sì, spalmiamolo su di lui, che tanto se no muore lo stesso, almeno ci proviamo. Oppure bisogna berlo, o ficcarselo. E ne facciamo bere uno e con quello sul braccio a leccarlo, vedere se qualcosa cambia, se lo bevo, un sorso dalla boccetta, giusto? La boccetta non ne contiene tanto, quindi okay. Se ne bevi un sorso tipo... Ok, è tipo olio. Un po' arancidino. Ma lubrifica? Ha voglia. Allora è fatto, ragazzi. Cioè, un po' fuori dalla bottiglia, poi cava a testa in giù. Allora, io direi di sfarmarlo un po' su metà gamba. E l'altra metà provare l'altra roba che avete trovato. No, la gamba però, cioè, è grosso tipo dove ti ha morso. Sì. Cioè non è tutta la gamba. Gamba, non ho idea di che cosa sia. Basta che il serpente morde su due punti, un punto lo copro con una pozione. No, una cosa abbiamo già capito che è da bere. Ti diamo anche a te un po' di quel lo strano latte non latte. Vabbè, allora, dico... lo strano latte non latte, chi lo bevi, Gava? Sì. Lo bevia, cioè io lo condividevo con tutti, lo bevevano in genere. Sei tutti d'accordo? Non so, avevamo visto che non era rischioso, lo tenevano lì in cucina, vuol dire che qualcosa di sicuro poi faceva male. Cucina nel secondo me c'è, se sono fatte questa cucina proprio. Vabbè, lo tenevano lì in una boccia, vuol dire qualcosa lo facevano, cioè gli faceva okay. Bene. Se siete tutti d'accordo lo bevete tutti, quindi. Io non sono tanto d'accordo né in gioco né nella vita. Giusto per lo spirito d'avventura. Allora, Marco si beve un bel sorso. Allora, facendo un paio di conti, se date un sorso tutti è finito. No, io non lo faccio. Ma perché dovremmo prendere questa roba? Non capisco. Così. Vuoi anche tu? E chi massa, già. A questo punto dobbiamo sopravvivere, ragazzi. Dobbiamo sopravvivere. Quindi. Vabbè, me ne provo un po'. L'ho detto con la lingua. Io posso anche evitare, credo. Almeno per il momento. Va bene. Io ne bevo un sorso. Intanto facciamo questa scena. Io ne bevo un sorso. Esplodo? No. Inizio a cagare a spruzzo? No. Beh. Chi altro? Beh, io. Sì. Gabba, caso mai questo avesse proprietà curative, io a sto punto non saprei che altro fare. C'è l'altra. Cioè, questa è intanto, intanto beviti un sorso di questo. Tanto ormai, cioè... L'ho fatto. Potrebbe essere l'ultimo drink della tua vita, no? Lo dico un po' sottovoce questo. Esatto, logico. Vabbè. Jump? Ti dirò... Ti tenta un po'. Mi tenta perché vedo una colorazione così affascinante, però non lo so, lo lecco se è possibile. Gianni, dobbiamo berci anche noi, però. Proprio barico a fare. Siamo in fascia protetta, Proprio con la punta della lingua leggermente. Ci prendo solo la punta, ecco, per farti capire. Niente di più. Vabbè, cioè... Non so come dire. Che simpatico, guarda. Comunque sì, cioè, sai, per capire un po' com'è, non è che lo bevo, lo assaggio. Lo bevi o no, Gianf? Ma non c'è una via di mezzo? No. Non lo bevo, allora, va, finito. Gianf, dai, non tenere okay. Troppo... Allora, Marco e Gava, sì. Non succede niente. Cosa? Io però di quell'olio nelle boccette non mi fido per niente, non so. Io per sicurezza lo spalmo anche sulla gamba. Metti che è un altro veleno, metti che è un altro veleno. E tanto è morto lo stesso, cioè. Non importa, si prova tutto adesso. E il fuoco si combatte col fuoco. Allora, tipo c'è la scena, io a un certo punto mi avvicino, Gava, io non so cosa sia questo, me lo strappa dalle mani e se lo versa sulla gamba. Va bene. Quindi scusa, Gava, tu ti versi una delle due boccette sulla gamba. Vabbè, nel senso, non è che spreco così tanta roba, cioè ne metto il giusto. Le boccette sono piccole, oh. No, le boccette sono piccole. Una boccetta di profumo è una roba grande così. Ah, allora sì. Ok, non c'è problema. Va bene. Ok, dopo... Allora, no, dopo cosa fate? Lo dico, riposatevi, faccio io il primo turno di guardia e per tipo due, tre ore al massimo sto di guardia all'ingresso della grotta. Io provo a aspettare tipo un'oretta e vedere se ha fatto qualcosa. Se non ha fatto nulla, provo l'altra roba che avete trovato nelle capanne. Che è quella che hai bevuto. Quella che ti abbiamo fatto bere, cara. Ma non erano due robe diverse? No, io volevo che si spalma di... Ah, pensavo fosse la stessa roba, però con due usi diversi, ok, niente. C'è una roba che non trovo. Raga, vabbè, okay. Ripetiamoci, turni vari... Quindi gli altri vanno a dormire, insomma. Sì, io faccio la guardia per tipo un'ora, due, sì, massimo. Che dopo un po' va giù il fuoco. Lo so, Sì. Intanto mentre sono mentre gli altri dormono, mentre c'è ancora un po' di fuoco, prendo tipo un bastone a mo' di torcia e provo a cercare nei dintorni della grotta se c'è qualche altro ramo o roba del genere. Gli altri stanno dormendo tranne Luca. Tirami un D4. Quattro. Non riesce a prendere sonno per niente. Quindi sono sveglio. Edo, Jacopo e Gianf si addormentano. Luca, stai provando a prendere sonno ma non ci riesci. Gava, stai aspettando un po' di tempo. Marco, provi ad alzarti. E insomma, come se fossi sbronzo, cioè gira tutto. Wow. Bene. Okay. Fantastico. Fai proprio fatica a muoverti. Cioè ti sei alzato ma dondoli un po'. Ok, nessuno nota questa cosa oltre a me? Di quelli... No, gli altri... Oh. Luca non so se sta cercando comunque di dormire. Cioè ci sto provando sicuramente. Sì, ok. Mentre Gavelli che pistola col fuoco. Ok, allora mi avvicino. Vedo che non riesco a fare un passo. Cioè, non è che non riesci a fare un passo, riesci a fare, ma dondoli un sacco e sembra che tu stia per cadere da un momento all'altro. Però non mi sento tipo svenire o cose del genere. No, è come se girasse tutto. È come se mi girasse più, se mi mancasse l'equilibrio, diciamo. Sì. Ok, allora mi avvicino a Gava e mi siedo accanto a lui. Temo che quelle cose non ci abbiano fatto troppo bene. Gava, tu senti? Temo che quelle cose non ci abbiano fatto troppo bene. E vedi Marco seduto in un angolo, che non si è mai alzato, che cade a terra sulla schiena. Perfetto. E dopo un po' ti senti anche tu, senti i tuoi occhi che si chiudono e cadi sulla schiena. Fantastico. Tutti e due vedete le stelle, il sole, la luna, il cielo, lo spazio. Ok, Luca, dopo un po' il fuoco si spegne e dopo tantissimo tempo riesci anche tu a prendere sonno. Ok, ma non me ne accorgo della questione di Marco, del fatto che... No, tu hai sentito Marco un po' così, però non ci hai fatto tanto caso. Non ci ho fatto tanto caso, va bene. Anche perché biascicava. Sì, dai, non tiro di mente. No. In realtà conto un po' di pecore, tira un dicendo per contare quante dopo pecore... Dopo un tempo molto lungo ti addormenti. Ok. Ho contato 84 pecore e mi sono addormentato. Su riflessi. Marco e Gava, tiratemi un D4. Un D4? Ok. Sì. Uno. Gli altri? Aspetta, scusa. Ah, quindi tutti sui riflessi? Sì. Ah, anche io sui riflessi? Sì, tirando un D4, però. Non ci credo. Ah, okay. Io ho fatto 2. Ah, scusami. Allora, aspetta. Edo? Un D4. Uguale, 1. Io ho fatto 2. E già. Io un D4. Grande. Sto male. Odis? 3. Ok. Già, ti svegli? È mattino. Hai recuperato 2 punti fatica. Sei il top, tu sei il migliore veramente, l'ho sempre detto io. Ti alzi grande. E vedi che tutti stanno dormendo, il fuoco si è spento e praticamente la situazione è come te l'eri ricordata la sera prima, cioè non è cambiato nulla. Strano, perché forse dovevi fare un turno di guardia, ma nessuno ti ha svegliato. Quando mi sei svegliato, va bene. Okay. Fai qualcosa o aspetti? Sì, svegli gli altri, quelli. Dico, Bumba, è ora di svegliarsi. Okay. Ah, e prima di farlo lo faccio ovviamente non col urlando come uno sciocco, però avvicinandomi vicino agli tutti e poi... cioè, andando là con la mano e scuotendoli delicatamente. Non urlando come uno sciocco, avvicinandomi all'orecchio e urlando come uno sciocco. Ok, allora recuperate. No, Jacopo e Edo recuperate 2 punti fatica. Marco e Luca recuperate 1 punto fatica. Gava perdi 1 punto fatica. vabbè, cazzo, ha un'infezione alla gamba. No, vabbè, noi perché ci siamo ubriacati? Cos'è successo? Luca perché ha faticato a prendere sonno. Tu Marco perché ti sei insomma strafatto. Ma che cazzo è quella sostanza? Hai detto che non era il... Io non riesco. Ma Gava dovrebbe aver preso, cioè un attimo che devo tirare. Essersi strafatto dovrebbe averlo aiutato a dormire meglio. Ho fatto 4 e dato che ho 5 punti fatica succede qualcosa. Sì. Stai molto molto male in questo momento e senti che hai la febbre alta. Raga, forse non ha funzionato quella boccetta. C'è l'altra, bevi. Ma la gamba non sembra peggiorata più di tanto, solo che cioè, è come, senti che ha fatto infezione e c'è qualcosa che... Avresti bisogno di antibiotici, insomma. Raga, ma sti cazzo di beduini nelle capanne non avevano proprio nulla di utile. Allora... Sì, Fleming è lì che ride. No. Non possiamo cercare di trovare, invece che cercare dentro le capanne, cercare direttamente gli indigeni? Ah, credevo dicessi coltivare muffe. Allora, io sono sveglio adesso, come sono mentalmente? Cioè, siete svegli? Pronta? Se non ti sei riposato benissimo, però comunque hai dormito. Anche tu, Luca, cioè comunque eri molto stressato, non so. O forse hai un disturbo del sonno. Temo che abbiate fatto bene a non bere. Ti deriva da quando hai pestato Luca usando punti psiche. Tipo. Usando i punti psiche. Ah! Scrivo? Sì, puoi scrivere. Disturbo del sonno minore. Disse l'uomo con depressione e dipendenza da connettere. Ma quindi ce l'ho la depressione, hai detto che era andata via. Ce l'hai minore, cioè sono ragazzi, i momenti di stress. Io ho tanti, io ho tanti... Jacopo è il medio. No, però non sai il mio difetto, vero? Quale? Sì che lo sai. Vabbè, troppo posto. Ok, del potere primario. Esatto. Ah, boh. Però dovremmo anche recuperare 10 punti salute in tutte le locazioni, o no? Sì, tranne Gava. Bravo! Ma lui non li recupera solo nella gamba o in tutto? In teoria, secondo il regolamento, ne perderebbe tipo 30, però facciamo di nuova. Va là. Ma là, cioè, se nel gioco non esiste un modo per curare sta gamba oltre ad amputarla, questa è una campagna per il livello 1. Sì, ma comunque, anche se fai l'amputazione, devi lo stesso medicarla e tutto. No, ma c'è ti arrugginito. Possiamo neanche fare quello. Ok, allora vediamo di fare il punto della situazione. Io sono dalla grotta e mi guardo intorno. Ragazzi, ma perché nessuno mi ha svegliato? Io avevo il secondo turno. Tipo con la lancia, perché finché ti spezzo. Temo purtroppo di aver avuto un problema ieri notte. Mi spiace. Che vuol dire un problema? Penso che le stelle, lo spazio. Penso che quella bevanda non faccia così bene come pensavo. Marco, ma nelle cose che hai visto ieri sera c'era anche la cura? Sai che hai visto tutto quando sei caduto? Aspetta, ma l'avete finita quella stanza? No, ce n'è ancora. Allora buttiamo io la tua ferita, almeno forse disinfetta se è alcol. Non è alcol. C'è un odore dell'alcol. Se Marco stava ubriaco come una merda, magari è alcol. O magari è un allucinante. Vabbè, almeno sta bene, muore in pace, muore allucinato. Magari è tipo leccare un rospo, allucinogeni a gogo. Quindi, allora... Allora, a me questa cosa preoccupa e guardo se magari, che ne so, se le cose che abbiamo ci sono tutte, ad esempio la razione c'è ancora, tutto, cioè controllo se qualcosa manca. Dalla sì, notte. Tutti voi avete ancora una razione di cibo a testa. Okay, quello che abbiamo le boccette, quello che vi siete portati, non è cambiato niente. Okay, chi si scrive le boccette, giusto, quelle piccole? Mancano le dita. Le scrivo io. Scrivi tu? Va bene. Sì. Allora, due boccette di... No, una boccetta, una è esatta. Una di risa. Salla, una boccetta, fuori. Scrivi olio. Non vorrei dirlo. Scrivi olio, olio e il nome del villaggio. Se no, tra 20 sessioni mi fa... Io ho ancora una boccetta di qualcosa, che cazzo è? Come si chiama il villaggio? Nash. Ah, giustamente. Il villaggio? Buia, sì. Okay. Ci sono delle tracce per terra che vanno da altre parti? È un'ottima domanda, che nessuno si era fatto fino adesso. Bravissimo! Puoi fare un tiro di sopravvivenza, che è, mente. Mente? Quale sono di 6? La vita di 6. Ma noi siamo tipo su una parete montuosa, tipo siamo rialzati, riusciamo a vedere cosa c'è? Un po' tipo una postazione rialzata al resto dell'isola. E in realtà non troppo, perché vedete comunque per la maggior parte alberi. Riuscite però a vedere il mare in lontananza. Okay. Aspetta, però io diciamo che giocando a molti videogiochi sono abituato a cogliere i dettagli. Quindi ho un vantaggio nello scovare tipo le tracce per terra. Si non trova le differenze tra le due immagini. Tu vorresti usare la tua abilità a videogiochi. Ho giocato un sacco a cercavallo. Tira un D8. Oddio, funziona. Sei. Allora, non vedi tracce. Cioè, o meglio, non riesci a distinguere tracce rilevanti. Però ci sono un po' di escrementi di animali. Ci sta. Di animali grossi, quindi. Sì. Assaggiali. Sto curando il pane. La merda. Sì, spalmateci la merda sopra. Vai a raccoglierla, vai a raccoglierla. No, no, ci butto sopra. Sì. Prima cosa che faccio al mattino è... Prendo altra acqua dal fiume. Mm-hmm. Vabbè, ormai il fuoco si è spento e non abbiamo tanto tempo, quindi... No, non ho capito cosa fai, Marco. Prendo altra acqua dal fiume e lavo di nuovo la ferita di Gava. Ok. Grazie, Marco. Cerco di, non so, guardo chi tra di noi ha il vestito più pulito e provo a bendarla un pochino come meglio posso. Poi se vuoi. Ecco, no, più che altro prendo un vestito, lo sciacquo nel fiume magari un pochino, sì, e poi ci bendo la ferita. Cioè, forse quelli più puliti sono proprio quelli di Gava. Gava, spogliati. Sì, non aspettavo l'altro. Schifo. No, è tipo possiamo tagliargli la gamba dei pantaloni che non usa tanto. Io sento tagliare la gamba e già mi allarmo. Dei pantaloni? Sì, sì, però io sento solo la prima parte. Vabbè, poi ci facciamo delle strisce di fasciare un pochino. Ok. Per tenerle almeno un po' pulite. Fai un tiro di medicina. Di medicina? Ok. Mm-hmm. Ok. cioè ho solo un punto abilità, quindi è sempre un D6. 8-2. Ok, fai qualche fasciatura, ti sembra che sia venuto abbastanza bene, e dopodiché gli altri? Io sono un po' preoccupato, interrogo gli altri ragazzi, ma che si fa qui? Ripartiamo? Cioè, siamo un po' in uno stallo. Eravamo diretti in una zona precisa dell'isola, no? Dovevamo salire le montagne per guardare l'isola dall'alto. Se non abbiamo altri punti di riferimento, se non abbiamo altri punti di riferimento, io continuerei con la missione, tra virgolette. Ma abbiamo un Federico che non so se cammina. Un ferito Federico. Federico. Con tutta la nostra maestria da ingegneri, siamo 4 cazzi, 6 cazzi di ingegneri, no, 5 cazzi di ingegneri sperduti su un'isola, non riusciamo a creare una brandina con cui trascinare gatti? 4,5 di ingegneri. Che brandina, una bella gruccia, come si chiamano? Una bella stampella. Ma ce la fa a camminare, Gava? Sì, abbastanza lentamente. L'unico problema che ha Gava è forse la morte, la resistenza nello scalare, anche che non è così facile. Quello. Perché abbiamo trovato la pelle di animale. Se riusciamo a trovare due bei bastoni, ah, è vero. Riusciamo a fare un po' di un telaio, lo abbiamo la pelle, dopo a turni ce lo trasciniamo dietro. Ok, tirate su mente. Non abbiamo nessun bonus perché siamo ingegneri. Sì, ci posso... vedo, ingegneria meccanica. Ah, vero, ok. Perché mi va così. 7. Bravo. Bravo. Edo fa una brandina spettacolare che si ripiega anche per il trasporto. Ragazzi, scusate, il parasole anche cazzo, che non credo che abbia studiato per fare questo, ma... vabbè, lasciamo perdere il realismo, momento fettente, momenti fettenti, tossione. Sì, non credo. Capisco, a meno che tu non sia nella serie TV Scorpion, non credo che questo funzioni nella vita reale. Vabbè. Ok. Quindi a questo punto scalate la montagna. Continuiamo a salire verso... Con la brandina? Lentamente, cioè non andiamo dritto su, cerchiamo tipo un percorso tra le rocce. Ok, tirate du fisico. Tutti fisico, a parte Gava perché sta a fare... Non è una montagna, era tipo una roccia. Io ho fatto 6 di forza. Ok. Gli altri? Col fatto che vado in palestra, posso usare il D8? Sì, puoi usare palestra. Ah, questa è la posso usare anch'io? Sette. Ce l'hai nell'abilità, Jump? La figa! Sì, un po' da palestra. Guarda, aspetta con la tua scheda da qualche parte. A me pare che tu abbia lingua inglese, conoscenza computer. Però si pare che ho aggiunto cose che tipo a caso. Allora, è questa la mia scheda, non so se si vede, se metto a fuoco. Sì, ma palestra è un punto abilità, non no, è un punto rango. No, ma un punto che c'entra. E quindi no. Che devi arrivare a 5 punti. Devi arrivare a 5 punti abilità per avere un punto rango. E allora niente, che cazzo c'è? Niente, sto qua. Infatti, niente, esattamente. Grazie, Vitala, sei sempre stato generoso. Quanto hai fatto, Luca, scusa? Io col tiro di 8, perché anch'io palestra, 3 abilità, 6. Ok, Jump? Quindi io tiro un di 6. Dai, 2. Va bene, riuscite a salire tutti, prendendo tutti un punto fatica, tranne Gava. Se ne prende di più, non ne prende. Dobbiamo fare la prova di fatica adesso. Sì. Cazzo, ma questa campagna è, cioè, mortale. Ma va? Oh. Quanto hai fatto? Vado 3 contro 4. Sotto stress. Ottimo. Sono anche depresso adesso, quindi. No. 8 su 4. Ok. 1 su 3. Malissimo. 1 su 3 devo dire che sarà il tasso di mortalità di questa campagna. Luca? Ma tu non stai portando su quattro cosa. Allora, ragazzi, scusate, io mi intreccio sempre col conto, quindi vi dico tutto. Ho fatto 5 con il dado e avevo perso 3 punti fatica. Ok. È a posto allora. Scusate, io questo conto mi sbaglio sempre più o meno, non so perché non viene mai. Io non stavo portando la brandina, vero? Sennò chi manca? Io. No, Gava non ha preso il punto fatica, quindi è a posto. Giaf quanto ha fatto? Giaf quanto ha fatto? Ho fatto 2. Su? E fatica. Ah, figo. Non ha fatto un cazzo, già. Cioè, era dritto di fatica, mi sono perso un po'. Sto male, allora. Ok, Jacopo, sei molto stanco. Diciamo sono distratto. Molto. Ok. Detto questo, arrivate sulla cima di questa collina. Dalla cima riuscite a vedere dietro di voi il mare. Cominciate a scrivervi da qualche parte com'è fatta quest'isola. Vai. Allora, voi siete in una posizione che diremo nord-est. Ok. Siete, ovviamente quasi tutta l'isola è ricoperta da foresta e quindi non vedete bene. Ok. Se fa una cosa che non vi ho detto, ci avete messo parecchio a salire e sono più o meno le 4 del pomeriggio. Minchia. Allora, l'isola è composta diciamo è circondata da una barriera corallina che riuscite a vedere da questa altezza. Vedete in mezzo all'isola un lago con un'isoletta al centro. A sud, più o meno, immaginate che dove siete sbarcati e tiratemi su riflessi. Hai detto che siamo sbarcati da sud, presumibilmente? Sì. Okay. Quindi venendo qui non abbiamo trovato il lago? No. Quest'ora. Fatto 5. Pure io. E io 4. Ho fatto 2. Luca? 2. Ho fatto 5. Ok, chi ha fatto non 2 vede a sud-ovest del fumo che si alza. Ma è più o meno dove eravamo sbarcati noi o? No. No. Questo è a sud, tipo al centro. Nord-est c'è la montagna, sud-ovest dove c'è il fumo. Quindi praticamente c'è lago con l'isoletta e poi fumo dietro il lago. No, è molto dietro, è dalla parte opposta dell'isola. No, dico, rispetto a dove siamo noi. Esatto, sì, è dalla parte opposta dell'isola. Aspetta, al nord-est vediamo una montagna? Al nord-est dove siamo noi, sì. Ah, ok, perfetto. Noi siamo la montagna. L'isola è tipo un atollo. Cioè, al centro dell'isola c'è questo lago con un'isoletta dentro. Ok. Esatto. Un lago con un'isola al centro, con un lago al centro, un'isola al centro. Posso fare un disegno per vedere se ci non abbiamo capito? Sì. L'isola è circolare? Oppure... l'audio. Possiamo dire che sia un'ellissi. Ok. E l'asse minore a sud, diciamo, è dove siete sbarcati. E okay. Voi siete a nord-est. Ok. Oggi ho fatto le ripetizioni sull'ellisse, quindi sto prontissimo, ragazzi. Certo. Abilità di 8 in cartografia. È circa un'ellisse. Non è un'ellisse. Stupidi matematici e ingegneri. Abbiamo sincronizzato la mappa, ma possiamo andare in giro con le quest attivate. Su. Esatto. Obiettivi secondari. Salvare Fede, ad esempio. Quello obiettivo extra. Opzionale. Opzionale. Ricompensa. Niente. Cosa? Allora, poi... Però no, vediamo esistenti altri villaggi o robe del genere, giusto? Da... ci sono... allora, la foresta è molto fitta, quindi in realtà non vedete altri edifici. Quindi il fumo che vediamo è praticamente diametralmente opposto all'isola dove siamo noi? Esatto. Bello. Sì. Quindi è a sud-ovest praticamente. Sì. Esatto. Noi vediamo questa troppa strada, non abbiamo il cibo. C'è questo lago con dentro le torretta che mi ispira tantissimo. Cioè, mi ricordo di Oasi, c'è proprio di boss finale di giovinezza e di lunga vita. Esatto, andiamo a portarci Federico. Ce lo lascio. Mi sa tanto di boss finale. Eh? Mi sa tanto di boss finale. Riusciremo tipo a fare un percorso che attraversa l'isola diretti verso il fumo, che passa più o meno per il lago, dove c'è, nel senso, nelle vicinanze. Se andate della... dritti verso il centro, arrivate al lago. Però da lì a passare verso all'isola, che è sul lago, non puoi, tipo, se ti a distanza su. Quanto riusciamo a intuire più o meno? Boh, grandine, cioè non lo sapete, perché muoversi nella foresta, come avete visto, non è facilissimo. Dipende molto da dallo stato di Gava. Nel senso, la grandezza dell'isola sarà qualche chilometro tra una punta e l'altra. Ma non so, essendo tutto piatto è difficile da stimare. Signori, io non ho idea di che fare. Ho mandato la mappa su WhatsApp, vedete un po' se va bene. Sorprendentemente accurata. No, la montagna è un po' più... un po' più nord. Sul limite del... cioè sulla costa. Però sì, più o meno l'idea è quella. Un articolo della polizia desideri in saldo. Come, scusa? Ah no. E il villaggio anche è molto più attaccato alla montagna. Ah, quindi la montagna e il villaggio sono molto più su. Cioè, nel senso, la montagna è come se fosse a strapiombo sulla costa da una parte, okay, e il villaggio è sopra la montagna, di fatto. Cioè, addossato alla montagna. Però, l'idea è quella. Però vi mando anche un'immagine per aiutarvi in questa decisione. Mi piace questo mosso. Lo spendare io. possiamo continuare... Aspetta. Perché... a me l'immagine di Edo però non è arrivata. No. Ma l'hai messo sul gruppo di Firefox? Adesso, a parte i numerini che alcuni taglierò, più o meno l'idea è questa. Questa è una parte dell'isola. Sto facendo il selfie. Fate finta di non vedere i numerini. Okay. Ah, ok, capito. Ah, però sì, quindi... è molto simile a quella che hai fatto tu. Sì, sì, va bene. Dobbiamo andare alla 3? Andiamo verso... ok, sì. Sì, sì, la sì. 3, scelgo la 3. La 1, la 2, la 3. Vi muovete subito? Che dobbiamo... che possiamo fare qua? No, ve lo dico perché sono tipo le 4, 3, 4. E quindi quello. Ora che scendete al villaggio, più o meno è sera. E almeno torniamo a riposare nella grotta a sto punto. Beh, sì, direi. Tutti d'accordo? Sì, ragazzi, ma pensate che noi... va bene, non abbiamo cibo, va bene, non fa niente. No, abbiamo ancora del cibo per stanotte, poi sì, siamo... sì, va bene, tanto se prende ci attaccherà, vai. Esatto, speriamo che ci attacchino, così ci rimandiamo. Ma che fa, moriamo, quello è bello. Sì. Tanto c'era la cacca di... di animale grosso, siamo un animale grosso. Anche, a una certa c'è anche Gava da mangiare. Esatto, a una certa sarà anche Gava, bello velenoso pure lui. Okay. Ma quella freccia nera è il cursore, ovviamente, non è un... No, no, quello è il boss, che si muove a caso ogni sessione, esatto, in un punto diverso. Tira un dado. Tipo Lugia nei Pokémon. Oddio, la stessa cosa abbiamo detto. Ok. Ok, quindi scendete e fate la stessa cosa la sera prima, immagino. Esatto, però prima di andare a dormire dico, ragazzi, se stasera il primo che fa il turno di guardia non si imbriaca l'ercio, magari ce la facciamo fare tutta la presenza. Volevo sapere una cosa però, cosa mangiate? La mia ferita. Le nostre razioni, perché che altro possiamo mangiare? Ok, toglietevi le razioni. Ok. Vabbè, e ma... come le mangiate le razioni? In che senso? In cosa consistono le razioni? È tipo una polverina liofilizzata. Wow. Bombe, sono bombe! Ci mettiamo l'acqua e... deliofilizziamo. Mettici l'olio che mi ha esatto. Ci mettiamo quello al top. L'acqua sempre è bollita. Vabbè, stavolta non serve, dai. È potabile. Ah no, non lo sappiamo, scusami. No, no, è il cavolo. È sì, no, sì, se riusciamo a bollirla di nuovo, la bolliamo e... Ok. E poi la versate sulla mia gamba. Bollente! Questa è la sua gamba, l'acqua bollente. Sì. Okay. Per fare... uccidere tutti i virus. Allora, vi addormentate tutti, tranne chi fa il turno di guardia. Dai, comincio io, perché ho riposato bene. Ok, dai, grazie. Scusate, ma i turni, cioè nel senso, lo facciamo tutti oppure durano un tot e dobbiamo farlo solo alcuni? Perché magari io e Marco possiamo non farlo, abbiamo riposato di meno, non lo so. E Salla? Cioè nel senso, al turno tipo quanto dura uno che fa... Considerate che cioè tu hai riposato di meno, nel senso che fuori dal gioco sai che come monte ore hai riposato bene, meno quello che sai in gioco è che hai dormito male. Ok, dai, facciamo io jump e Jacob, facciamo due a testa, dormiamo 6 ore, poi ci sta. Però no, poi no, gestitevelo voi 12 ore, mi spiace. Però poi gestitevi voi i tempi, a me. Vabbè, no, posso preparo tanto. Io faccio una frecciatina a Marco dicendo: eh sì, ne potremmo farne in più se solo il nostro gruppo, cioè il leader del gruppo, non si fosse ubriacato. Però dico solo, però cioè, diciamo che più riposate, più recuperate punti fatica. No, il cazzo, allora dormiamo tutto il giorno. Ma scusa, perché dobbiamo fare i turni di guardia? Ci dà bella volta, no? C'è una bella volta e ci andrà bene di nuovo. Io non lo farei stanotte e spero che ci prendano, non lo so, proprio il boss finale ci venga a prendere a martellate mentre dormiamo. Dai, no, ma tu puoi anche farlo per tutta la notte, dai, combattendo sei inutile. Infatti. Sai che faccio? Io attivo il mio potere col portale e me ne vado a fare un culo. Qualsiasi reazione. Vado a dormire a casa. Però ciao Marco. Col caffettino, no? No, io dico proprio, no, non c'è problema, se volete... Io non ho problemi a fare il turno di guardia, svegliatemi pure. No, per me va bene, facciamo io Gianfredo. Io torno a casa, poi torno lì in ciabatte, in accappatoio, con le patate col caffè. Oh, ciao raga, come state? È il cornetto. E il cornetto, no. Il cornetto. Beh, posso fare io il primo turno di guardia? Perché mi scoccio a svegliare, voglio fare un dormito tranquillo. Ti dico, va bene, faccio quanti punti ferita, scusa, quanti punti fatica hai perso? Chi? Marco. Tra l'altro... Io ho 4 per ora. Vabbè, allora, no, allora è meglio che lo faccia io che Marco il turno. Cioè, diciamo, in gioco sarebbe, lo vedo più stanco di me, quindi gli propongo di farlo io. Va bene, l'unica cosa che voglio sapere è, Gava, devi farmi un tiro di fisico. Di nuovo, io gli faccio un altro, lavo le ferite, faccio un altro come ho fatto stamattina, la stessa mattina, un'altra roba del genere. Mm-hmm. E ho fatto 6. Wow. Notevole. E allora aiuto. No. Allora, a meno che Marco non abbia l'acqua antibatterica nel coso... E... Domanda Salla, domanda stupida ovviamente come il mio solito. Posso usare il mio potere sull'acqua? Sì. Sala, secondo me non l'ha letto il messaggio di oggi. Ho fatto finta di leggerlo, non l'ho letto. No, no, si puoi farlo. Vabbè, aggiungi un po' d'ossigeno, fa acqua ossigenata. Facciamo l'acqua pesante, ci manca un reattore a posto. Cioè, non lo so, se per esempio noi cioè dentro l'acqua ci mettiamo, non lo so. la pioggia. Cioè, io sto pensando a qualcosa. Almeno io ci provo. No, no, dimmi, sono tutto orecchie, Gian. No, io sinceramente quello che pensavo, anche se adesso mi spottete, era prendere un po' del sangue del nostro collega. Ma vedi, che torna tutto. Lo vedi come sanguinato. Shakeriamo, potenziamo, facciamo grandimenti. Cioè, della serie, il mio potere deve far sì che si autosintetizzi un tipo di... Secondo me, ti dico, ci sta, è molto alla Misfit. Cioè, capito? Misfit. Con il potere stabilizzare quasi una mezza specie di cura, capito? E io sono leggenda, capito? Quella è l'idea. Va bene, no. Vuoi provarci? Prendi il sangue, chiedi a Marco un po' di sangue. Marco lo infilza il cuore per far uscire il più sangue possibile. No, se io dico gentilmente, Marco, posso farti un piccolo graffietto? Sangue. Gianfetto, tu vedi proprio che prendo il coltello e mi faccio un taglio sulla mano, sai, proprio come Daniel Rifin. Che tamarra di merda. Ho fiducia in te per stavolta. Quando sei... Ah, però per l'altra volta ti facevi tanti problemi, quando volevo farmi l'impacco. Adesso no. Ma il mio è un po' più normale come cosa, meno schifosa. Ce l'ho discreta. Ma poi io scelgo, faccio finta che non fa il risultato finale. Quello che come finirà? Perché mi conosce troppo bene. Dicevi già, scusami, allora metti il sangue di Marco. Dentro la boccetta, quella che abbiamo d'acqua, insomma. Ma noi ce l'abbiamo le bottigliette d'acqua, ce l'avevamo pure portate, tra l'altro. Quindi. Dopo le riempiamo al fiume, spero. Sì, che poi riempiamo al fiume. Quindi vabbè, pure prendi una boccetta di quella dell'olio, mettiamo. Ci metti l'acqua dentro. Cioè, insomma, di sangue, acqua, okay. Shaker. Mm-hmm. Lo prendi in mano. Aspetta, ho una domanda prima. L'acqua disinfettata. Sì, l'avevi presa dopo averla fatta bollire. Ah, sì, ovvio, c'era... Cioè, quella che... No, sì, hai ragione, era quella più o meno che era rimasta lì, suppongo, che avevo preparato la sera prima. O se non ancora la sera. Vabbè. No, siamo ancora la sera prima, così almeno posso recuperare il potere. Vai. E uso Jumanji. Va bene, cioè, tira il dado controllo. Eh? Un dado? Dado controllo. Che dado tira? Controllo. No, il controllo è messo di 8, mi pare. Perché no? C'ho il di 8? Hai preso controllo migliorato. Hai messo no il di 8, punto di domanda. No, aspetta, no, perché mi sei chiusa la scheda, sono stupido. Avevi preso controllo migliorato o no? No, quello era Edo, mi sa. Ah, no, scusa, no, non ho migliorato niente, che io sappia. No, io ho preso il secondo potere. Pure io ho preso il secondo potere. E allora niente. Gava che aveva preso controllo migliorato. Porca puttana, raga, quelli che c'è il corriere del palo. Sì, è vero, sono stato io. Tira un di 6, Gianf. Indovina quando ho fatto 6. Non sto citando, è vero. Ok, va bene. Quindi tu la tua idea è quella di fare qualcosa all'acqua e al sangue, giusto? Sì. Ok. Gava, cosa ci fai con questa roba? La butto sul fuoco. Devi te la usi una ferita. Spera, faccio un po' per essere sicuro. No, io lo dico, secondo me questa dovresti dovrebbe iniettartela. Infatti quindi, sarebbe da iniettare. No, io penso di fare tipo un'imbevuta di tessuto, cioè nel senso di prendere un po' di tessuto. No, è una stronzata. Di metterci sta roba e di avvolgerlo alla ferita. È la grande stronzata del secolo. Se è qualunque tipo di sostanza, te la devi iniettare. Già bene per te sostanza. Come ma faccio a iniettarla secondo te? Fai un buco, perché tanto è già bucata la ferita, ti prendi con un coltellino, il coltellino io ti buco e ci provo a metterla dentro. Ragazzi, io purtroppo questa volta sono d'accordo con Giampe. Ammesso che questa cosa abbia un barlume di funzionamento, secondo me deve essere iniettata nel sangue. Sì, sì. No, quello lo so che deve essere iniettata decentemente, però... Sì, no, però dicevo, non, se te la mangi, non, secondo me non va bene. Ammesso che... Sì, pure secondo me, cioè, sì. Esatto. e mettergli del tessuto è la stessa stronzata. Quindi la serie cerco di fare, prendo, io c'ho il coltellino quello svizzero del cazzo da portachiavi, capito, quello un po' grossettino, così prendo il coltellino, lo sbruciacchio, infilzo Gava nel punto dove c'è la ferita. Gava ti fa veramente malissimo perché è anche infettato. Io mi ho preso del tipo un pezzo di legno e me l'ero messo in bocca. Ti fa male uguale, non è che se metti il legno sì, in bocca. Sì, ma nel senso, sai quando devono fare il ramo era velenato. Ok, e dopodiché, Jaff? E niente, poi con delicatezza, mentre lui rimane tranquillo. Poi con delicatezza. Esatto, esattamente la cosa che hai fatto tu. Verso okay. Il più possibile dentro il buco che ho fatto. Okay. Gava, tu fai qualcosa, mordi il legnetto, no? Sì. Ok. Ti ricordi quella prova di fisico che ho fatto, ti ho fatto fare prima? Ritira. No, io non l'ho visto subito. Okay. Ma avevo fatto 6. È stato inutile. Beh, no, lo scarico, lo aggiungo la lista. Bello, l'hai visto? Ho fatto 2. Ma ok. Ti ricordi quando ti avevo detto grande, bel risultato? Non è questo il caso. Ok. Allora, andate a dormire. Vi svegliate. Avete tutti voi 2 punti fatica in più. Cioè, recuperati. Tranne Gava che perde un punto fatica e 20 punti ferita alla gamba. Ti fa perché molto più male di prima. Aspetta, li perde o acquista 20 punti di ferita? Li perde, l'infezione è peggiorata parecchio. Grazie. È strano, è strano. Guarda, Salla, io avevo messo il coltellino in mezzo al fuoco, ce l'avevo detto, l'ho fatto sì. Anche il sangue di Marco in mezzo al fuoco, la boccetta con l'olio in mezzo al fuoco. Scusa, cosa cazzo hai fatto sul sangue e l'acqua se non li hai potenziati? Allora, io ho tirato il cazzo perché il suo potere ha effetto solo sulle cose inorganiche. Ah, ottimo. Wow. Ah, io me lo ricordavo, pensavo che acqua. L'acqua c'è inorganica, il problema è che c'è sangue. Beh, ma c'è comunque il sangue che ha potere guaritore. No, non funziona così. Quanto è vero il Gesù? Salla, ho fatto 1 nel tiro fatica, quindi. No, quindi è morto, mi sa, tipo. Cioè, sai, meno 1 fa tanto. Ma chi è quella? È una tenda? Ah, sì. Non puoi muovere la gamba, è completamente paralizzata. Che bevi, Salla? Acqua. Senza il sangue di Marco. Senza il sangue. Marco, sei inutile, cazzo! Veramente. Aspetta, ma non è che siccome il sangue di Marco è infettato dalla dalla malattia veneria. Forse anche solo il fatto che è sangue, che la boccetta non è disinfettata e che gli hai riaperto una ferita, tipo. Marco, tu non avevi la droga, quella Z qualcosa? Voglio voglio iniettarmi quella. Se l'avesse sarebbe lui. Se l'avesse avrebbe già sniffata tutta. Tipo pensavo non la usasse. Il gran premio. Voglio stare drogato. Lui è già drogato. Ed è la stessa. Ah, mi piace, ci stiamo facendo più male di quello che ci vorrebbe fare Salla. Ci stiamo riuscendo a fare peggio. Di... Sì. Ok, nuova regola per i tipi di medicina. Non chiediamo a Gianfe. Di pizzare le gambe. No, infatti a me è piaciuta l'idea perché è una roba molto alla Misfit, facciamo cose a cazzo e finisce di merda. Non avendo visto Misfit non avevo... io neanche l'ho visto, quindi ho detto vabbè, sarà una cosa buona. sarà una cosa buona. Non avevo pensato. No, io no, perché l'ho visto però. Ma comunque, cioè, dall'esperienza già fa danno con le cose materiali, cioè con la biologia, qua queste cose qua, immagino un po' che può fare. Ma io vorrei un punto esperienza per non aver riso mentre diceva ste puttanate. Noi pensavamo che il suo potere per... tu non avevi preso un altro potere, infatti vabbè. Sì, Posso... Sì, poteva fare il coltello più forte. Sì, ma ti faccio tanto. Ma è per la ferita, potevi farlo più veloce. Ok. Detto questo, direi che possiamo partire, no? Sì, partiamo. Siete più o meno dove avete cominciato. E dove andiamo? Un po' più indietro, dai, nel senso di... Ma non passate lo sfumo, ti prego. Però dobbiamo passare il laghetto, se non ci fermiamo. Ho un'idea. Ma ascoltatelo, state ridando. Marco, dammi l'allucinogeno, non voglio essere cosciente, cioè voglio un po' delirare. Dolce. Questa potrebbe essere la migliore che sia venuta. Ok, sono rimasto. Aspetta, fammi parlare un attimo. Ci sarebbe un'altra alternativa, un po', nel senso di potremmo stenderlo con l'allucinogeno, poi tipo fare una specie di operazione di emergenza, cercare di ripulirgli un po' la ferita dalla gamba o in qualche modo. Gava sta male, ha tipo la febbre. Ho capito. Ma se tu la buchi di nuovo la gamba, si dovrebbe scoppiare. Sì, vabbè, anche questa mi sembra un'ottima idea, secondo me potresti provare. Qui non sei riuscito a non ridere, comunque. Cioè, no. Io so. Posso fare una domanda? È come un brufolo, Gian. Esatto. Ma quanto è nera la sua gamba? 1 e 2, ha ancora sensibilità? In questo momento? Non senti più niente. No. E 3, se sta morendo, possiamo lasciarlo qui che ci gira il led e basta. No, praticamente, allora io ho immaginato la sua gamba come se avesse morso tipo sul polpaccio. Sì. Quindi adesso il polpaccio è tipo grande così. Ok. È brava adesso. Ed è rosso e pulsa. Ok. In più vedete un rivolino nero che va sulla coscia. Sì. E anche il piede si è gonfiato e non ha più sensibilità in quella parte del corpo. Ci sta, ti puoi far colpire lì, quindi è in gangrena. Non ha il colore e l'aspetto di una roba in gangrena, è molto molto molto gonfio. Quanto ci abbiamo messo, più o meno sapendo la strada, per tornare al nostro accampamento dove siamo sbarcati dal dottore, per dirla tutta, quanto ci metteremmo? E una tipo 5 ore. Porco, ma là ci sta il tizio, il dottor Oppenheimer. Chi è Oppenheimer? A questo punto, vista la situazione, vabbè, io dico al gruppo: voglio andare nel mondo delle fate, prendo la boccetta e me la scolo tutta. Intende il liquido lattiginoso. Sì. Ok. Ci sta. Se ne beve un sorso, perché lo fermo io, tienilo per dopo che potrebbe servirci. Ok, quanta ne bevi? Che già bere tutta e bere un sorso è molto diverso. Gliene do un sorso più o meno come ha bevuto la sera prima. No, quanta ne aveva bevuta Marco? Sì, un sorso. Ok, facciamo due per sicurezza. Cosa? Sì, uno, deve fare uno o due? Due. Gli do un sorso e basta, poi lo fermo. Io gli dico, tipo, me ne è una prova di riflessi, contrapposta a Gava. Non so, ho fatto 3. Marco? scusa, era contrapposto. Ho fatto 6. Riesce a bloccare un sorso solo. Basta che quella è solo alimentazione. Più o meno ne avete bevuto in totale metà. Ok. Quello che succede è che dopo un po' Gava si mette a dormire. Proprio utilizzabile? No, cioè un Xbox. Vabbè, allora lo buttiamo sulla barella e vi avviate verso. Io direi di tornare al dove siamo sbarcati con la scialuppa. Dobbiamo farlo visitare dal dottore, non penso sopravviverà molto a lungo in caso contrario. Ok. Comunque non mi fido troppo del dottore, però a questo punto magari non mi ricordo. Questo Voi siete stati via praticamente 2 giorni. Sì. Quando riuscite a seguire... Ah no, fatemi un tiro di mente, tranne Gav, per vedere se non vi perdete come dei maiali. 5. Oh, aspetta. Ok, non vi perdete come dei maiali. E nessuno viene a uccidervi mentre camminate. Ma tra l'altro ricordiamoci che abbiamo anche una rete nelle cose che abbiamo. Ah, è vero, ce l'ho io. Mi sembra. Lo io. La usiamo per assicurare meglio Gava alla... assicurare meglio. Va bene. Ok. Arrivate al campo e vedete che è più o meno come l'avete lasciato. Ok. E vado subito a cercare il dottore. Il primo che vi trova è il dottore, che fa: oh, siete tornati finalmente, ma che fine avevate fatto? Lascia perdere, va, vieni a vedere che uno di noi è stato ferito gravemente, purtroppo. E, ma c'è qualcuno nell'isola, avete trovato qualcosa? Forse, ma adesso avremo il tempo per discuterne. Questa è okay, venite dentro la tenda e vedi che loro hanno costruito una sorta di tettoia. Ok. Per prepararsi. Altro che noi. Vi avvicinate e vedete che mancano delle persone. Vedete che la famiglia di italiani è ancora come l'avevate lasciata, più o meno, un po' più deperiti, ma circa gli stessi. Ok. Vedete che Vasili continua a guardare il vuoto in un angolo. Ok, grazie Vasili. I due fratelli, vedete che Marianne, la sorella, è a terra, molto debole, e fatica a respirare senza una gamba. Oddio! Non vedete il marito, Owen. Owen? Qual era Owen? Quello che aveva perso la moglie. E dico verso la famiglia di italiani e dico: mi sapete dire cosa è successo? Come mai mandano alcune persone? E come mai stai così? A chi lo chiedi? Alla famiglia di italiani. No, aspetta, come mai stai così? No, c'entra un cazzo, perché non è lei quella... Infatti... Chiedo io al dottore anche, magari. Che... Allora, il dottore vi dice: guardate, da quando siete andati via le cose non sono fatte migliori, venite da parte, vi racconto, e vi sposta, vi porta un po' più lontano. No. Owen era molto depresso e la prima notte si è suicidato. No. Cioè, dopo la prima notte si è suicidato. E la ragazza è molto grave, probabilmente morirà se non riceve cure entro domani. Buono a sapersi. Il fratello della ragazza dove hai detto che è? È lì di fianco a lei. Ah, quello sta sempre bene, ma che c'è niente a questo, sta sempre stato, come funziona. Purtroppo abbiamo anche un altro problema adesso. E gli faccio vedere, gli dico cosa è successo alla gamba di Gava. Ah, è molto grave, sembra che si sia infettata. Ma cosa... avete cercato di disinfettarla? E non sapevamo come, non avevamo niente con noi. Non... Abbiamo sì cercato di pulire con l'acqua. Abbiamo cercato di fare esatto, solo quello, abbastanza. Non abbiamo provato nient'altro. Niente, io senza antibiotici e medicine purtroppo non posso fare niente. Non c'era niente nel canotto di sopravvivenza, nel canotto, vero? No. Dovevo cercare forse nelle gabine, a suo tempo. Magari è rimasto un vuoto. Edoardo non poteva usare il potere barato, avevamo nerfato il potere di portare di Edoardo, giusto? Sì. In realtà potrebbe usarlo. Cioè, potrebbe provarci. Edo, la situazione ormai... Ah, io non capisco una cosa, il tuo teletrasporto, decline, tu apri un portale, ci entri dentro e vai dove la direzione. Ma questo chiedo anche a Salla, ma lui vede, cioè lui crea un portale, vede quello che c'è dentro il portale e decide di entrare. No. No, il portale è buio, è nero. Sì. Quindi lui entra e non sa dove va. No, lui lo sa perché l'ha creato per andare in un luogo. Però se non usa abbastanza, diciamo, energia... potrebbe non creare abbastanza, portare abbastanza forte per andare dove vuole lui. No, il difetto cosa che... vuoi dire? A caso. Ah, è proprio quello il potere? Il potere fai crea un portale e te ne vai. Allora, il potere è quello, ma il difetto è che io mi teletrasporto in una parte a caso. Ah, ok. Sì. Va bene, quindi niente. Quindi sono è per quello che non l'ho usato, perché dove mi teletrasporto non è positivo. Vabbè, scusami, di che ti vuoi teletrasportare in una macelleria, magari finisci in una farmacia casualmente. È più sensato di qualsiasi cosa abbia fatto finora, quindi diciamo, funziona. Salla, ma il mio potere è comando casualità? Scusami, stavo leggendo. No, il tuo potere è fortuna. Comando casualità, ecco. È il mio potere. Ah, no, ecco perché non mi riportavano le cose. Come... Salla, non mi riporta niente quello che... Aspetta! Luca, va a cercare delle medicine. Guarda che c'è una botta di cura che trovi tipo l'antibiotico. Che cazzo ti sai? Campion, dovevo dirti questa cosa perché ogni cosa sarà... Ogni cosa sarà Luca, vai! Tra la sabbia. Una gelazio, per favore. Se c'è fortuna lo trovi. Se te lo in tasca. Ci trovo l'antibiotico, non credo. Ma, ma... Quindi? Quindi no, cioè non ho... Ok, e quindi non avete trovato niente in giro per l'isola? Stancia, vi faccio vedere l'arancia. Vabbè, ormai si è fatta sera, noi abbiamo trovato qualche radice qua intorno. Potreste restare con noi. Ci trovo la radice. Però vai a pesca, Gian, l'arancia. Vado a pesca, con l'arancia. Ci sta la domanda, ma se io uso il portale per andare a casa, io poi so come tornare su quell'isola? Teoria sì, non l'hai mai usato. Ma normalmente quando uso la prima volta il potere funziona e poi che diventa perfetto. Tecnicamente capito? Lui la prima volta che l'ha usato non ha funzionato. Esatto. Lo so, però visto che è successo questo c'è un'ottima probabilità che adesso rifunzioni. Edo, puoi sempre fare una prova, puoi teletrasportarti tipo a 5 metri di distanza, se vedi che tutto va bene. Sì, quello che mi preoccupa è che teletrasportarsi a 5 metri di distanza non è uguale a teletrasportarsi a 50.000 km di distanza. Tu una prova la faresti. No, perché tecnicamente dovresti aprire anche il portale dall'altra parte, quindi dovresti vedere un altro portale. A 10 metri non lo vediamo l'altro portale, quindi sai se si apre. Tu crei due portali. Sì, poi è diverso che si serve. Poi intanto sì. No. Lui entra nel portale, il portale si apre e esce dall'altra parte. Ah, ok, si chiude il primo portale e si apre il secondo. Sì. È giusto, se no sarebbe anche pericoloso, perché lui potrebbe andare in un... Giusto. E adesso potrebbe trasportarlo. Io dico, quindi restiamo qui per la notte oppure proviamo ad andare via al laghetto? A Marco. No, stiamo qua, è da pazzo. La notte a questo punto conviene passarla qua e domattina presto lasciamo qua Gava riposare. Partiamo per il là. Cioè, gasato o morto? O riposato? Come la dici? Oh, guarda, le farfalline, che carine! Oh, che bello! Marco, io faccio vedere la boccetta rimasta... dello strano olio al dottore, gli chiedo se ha idea di che cosa sia. Ma a me non vorrei sbagliarmi, ma sembra quasi un olio tipo idratante. Cosa? Hai visto, fa bene alla pelle. C'è una roba tipo crema. Io vado a spalmarlo. Perché cosa da bere? Quella che si usa come protezione, per esempio, dal sole. Mi dà quest'idea qua. Ah. Interessante. Insomma, se lo dici tu. Allora, quello di protezione era, scusa, l'olio o la boccetta? Cioè, l'olio, quello tipo più grande sì, o boccetta, le boccette? La boccetta piccola. Ah, la boccetta piccola? E anche, gli faccio vedere anche il liquido bianco per vedere se anche quello sa. Questa invece mi sembra come latte di noce moscata. Potrebbe essere un allucinogeno. Potrebbe. E che scopo dovrebbe avere? Per poter solo, cioè, rincoglionirti? Beh, in realtà so che alcuni... Dove l'avete trovato? In una capanna, in un posto con degli indios? Sì, perché so che è usato, era usato, è ancora usato dagli sciamani per i loro riti. Okay. Ma c'era qualcuno di vivo? Risponderò con un no, perché no. Non c'era nessuno. Che cosa intendi per nel senso che c'era qualcosa di strano? Assolutamente. Ma chi sta parlando? Sta parlando il nostro capo Marco? Oppure siamo tutti lì? Siete tutti, mi sa. Non so se vi ricordate la volta scorsa, avevo detto che ero reticente a condividere le informazioni con il dottore. Ma ormai gli ho fatto vedere la roba. Sì, beh, la roba è una cosa, parlare degli zanchi se è un'altra. C'era qualcuno di vivo? No, però abbiamo incontrato quelli che noi sembravamo essere dei ex. Già, non hai coniugato una cosa bene. Erano ex vivi. No. Abbiamo incontrato quelli che sembravano essere zanchi. È vero, mi ha dato tre. Se sai cosa intendo con questo. Sì, ma avete trovato anche del connettore Z? Non nei dintorni. Io mi fiderei del master che... Strano. Vedi che abbiamo fatto, ci ha messo così un tizio a caso che ci ha tradito, un bambino a caso che ci ha tradito. Sembra che abbiamo fatto cose questo dottore. Allora, facciamo una cosa. Dimmi. O la va o la spacca. Io mi allontano un pochetto, sì, cercando di non farmi notare specialmente dal dottore, mm-hmm, molto di soppiatto, e provo a usare il mio potere per tornare a casa a Bologna. Io dico vai, no, tu non mi dici un cazzo. Vai. Tira su mente o controllo. Controllo. 2. Ed è stato un piacere conoscerti. Ci giriamo e cominciamo. No, facciamo pure ansia. Sì. Ci siano altre persone dentro l'isola. Oddio, sì. Ok. Sei a casa tua? A San Benedetto. Vabbè, ci sta. Merda. Vabbè, anche a Samento ci sono le farmacie. C'è qualcuno a casa. Prego, Dino, ti prego. No, non c'è nessuno a casa. Che culo. Prendi una borsa e prendi tutti i medicinali che c'è tipo dentro lo stanzino, tipo così. alla cazzo. E barrette proteiche. Allora. È il momento di fare scorte, Doja. Esatto, prendo uno zaino abbastanza grande. Ok. Ci metto dentro un po' di cibo, cioè quello che riesco a prendere. Ok. Prendo una cassa d'acqua. Cosa? Ok. No, non ce la faccio, non me la devo portare. Gli antibiotici! Posso fare io per mandare giù? Lascio gli antibiotici! Sì, lascio. Mi sono tornato a casa con il portale. Ora torno, basta che stiamo morendo tutti. Vabbè, che ne so, vabbè, ok. Allora, prendo tutte queste cose. Apro il portafoglio dei miei gini, cioè, no, se non c'è nessuno non ha senso. Anzi, no, ha senso. rubo dei soldi a casa. Ma i soldi non servono qui. Silenzio. Perché non dici, a tutti su YouTube dove sono i soldi. Esatto. Evito di dire dove sono i soldi, ma rubo dei soldi. Apro il terzo cassetto della credenza. Quasi. Il codice della cassaforte che sta dietro al quadro. Vado a un banco, inserisco il PIN della mia carta che è... che è 9999. Perché davvero, però. Devo andarti peggio. Ok. Allora, dopo che ho preso un po' il provviste e cose così, controllo nella, nella cassetta dove teniamo tutti i medicinali, se c'è un antibiotico, antidolorifico, cosa del genere. Sicuramente un antibiotico non c'è. Quello non che c'è. Potrebbe esserci è un antidolorifico o un antinfiammatorio. Esatto, prendo antinfiammatorio e qualche gazza. Ok. E dell'alcol per disinfettare. Quindi ricapitolando, cibo, medicinali, acqua. Sì. Bombe a mano se ci sono. Aspetta, l'antibiotico no, perché ci vuole la prescrizione, però tipo un antinfiammatorio tipo per infezioni. Sì, diciamo che ho preso un po' di medicinali generici. Ma anche comprare un'altra cassetta del pronto soccorso piuttosto. Ecco, altra cosa. Allora esco di casa cercando di farmi vedere il meno possibile da tutta la gente che ci sia. Ok. E una volta che sono tipo un po' defilato, non proprio davanti casa, chiamo il mio medico, perché il telefono non immagino che funzioni. Non funziona. Aspetta, il tuo telefono o un telefono? Vabbè, uso intanto il mio telefono. Devi metterlo a caricare. Non hai la corrente a casa. Posso fare un attimo un rewind? No. No. Entra dentro la pizzeria. Non è il caricatore. No, chiama dal loro telefono. Allora, vado sul lungomare e utilizzo una cabina telefonica. Ok. E chiami? Il telefono è spento, però. Yeah. 118. 118. Vabbè, ci sarà un elenco telefonico lì nella cabina, giusto? Dove ci sta un elenco? Per botta di culo trovo un elenco telefonico nella cabina. Ma dai, no. Ci stanno di solito. No. No. Siamo nel 1989. Allora, ti tu stai girando con uno zaino pieno di roba e una cassa d'acqua anche, ti vorrei ricordare. ho fatto spesa. Allora faccio così. Allora, sembra una cazzata ma è vero. Il figlio della mia dottoressa abita vicino a casa mia. Ok. Io spero che sia a casa e gli vado a citofonare. Ok. Nel frattempo sull'isola c'è fare... Ok, risponde. Ok, gli faccio ciao Michele, potresti darmi il numero di Anna che l'ho perso? Anna è sua madre, ovvero la mia dottoressa. C'è vero. Ok, ti dà il numero. Ok, me lo appunto da qualche parte. Un saluto intanto a Michele e Anna che come te lo appunti? Me lo appunto, lo imparo a memoria. Ok. Si motivava tipo un tiro mente, lo dimentichi. Allora, dal momento in cui me lo dice, smetto di parlare per 10 secondi e metto il numero. Ok, poi? Poi lo ringrazio e faccio ciao scusa ma devo scappare. Okay. E chi è di attacco? È la cosa più disconnessa che abbia mai sentito. Che devo fare? Dopodiché sempre con sto zaino la cassa d'acqua. Esattamente. Sì. Allora adesso cammino al bar più vicino, nel frattempo mi ripeto continuamente questo numero. Mm-hmm. Arrivo, prendo un caffè. Nel frattempo sento disagiato perché continuo a ripetere i soldi numero. Sugli hai, sì. Intanto mi immagino tipo che passa di fianco alle persone che dico c'è uno al telefono, ma hai detto 59, 24, 69? I soldi ce li hai, sì. Sì, i soldi, vabbè, a parte li ho rubati a casa, poi sì, cioè, avevo il portafoglio, il famoso rubare a casa. Arrivo al bar e chiedo, prendo un caffè e chiedo se posso fare una telefonata urgente perché ho il telefono scarico. Tira su sociale. Balista stronzo, no. 4. Ma che ci, ok, ci sta. Ma non chiamare cose strane. No, non ti preoccupare. Questo è tipo la puntata di Simpson. Della mia dottoressa e la chiamo. E dove, tipo la puntata di Simpson dove Homer fa, ma deve chi fare una telefonata straniera? Tipo, no, è l'ex fonico del Giappone. Tira su mente. No. La vedo malissimo. Va bene. Io voglio un fare qui, però. Senti una voce femminile, pronto? Sì, pronto, Anna, sono Edoardo. E questo è il centro protezione animali. Desidero. Ti dico. Vabbè, ma se l'ha ripetuto tutto il tempo mentre andava lì. Ha fatto fumble. Allora chiedo, cioè dico, mi riprendo un attimo e faccio. Si salve, il mio cane si è ferito, avrei bisogno di un antibiotico. Dove posso prenderlo? No, mi sono detto, anche io avrei fatto questo, cioè nel senso la puttana, sì. Fatto tira su sociale. Perché ci vuole la ricetta per l'antibiotico? Ah sì? Che leso di merda. Due? Mercuri non riattacca, che sarebbe stato il fumble. Fa niente, ce lo porti e... Cioè, in realtà noi gli diremmo di chiamare un veterinario. Però se proprio è urgenza, ce lo porti qua e lo visitiamo. Grazie, buona giornata. Ok, grazie, buona giornata. Come vuole. Tira, mette giù. Fai prima a cercare su internet. Ah no, perché tu volevi farti prescrivere. Oh, okay, come cerco su internet? E a casa tua non ci sono computer a casa tua. Ma non posso tornare a casa, se becco qualcuno alla fine. Non ha manco le chiavi. Magari qualcuno è tornato nel frattempo. In casa non ci manca una power bank, no? Non hai manco le chiavi di casa. Esatto, non ho manco le chiavi di casa. Rivedo il portale. Scusa, non ha a carassaio. Puoi aprire un portale per tornare in casa. La dottoressa medico generico è a carassai? Sì. Non hai qualcuno nei contatti che può darti una mano? Vabbè, non riesci a contattarlo, tu dire. Ricetta? Potresti fare un portale e andare a casa. Inizialmente se sei. Non fai prima a trovare un cinese che ti venda un caricabatterie per il tuo cellulare. Ma lo puoi dire, cioè come penso che... Non lo so. Vado al negozio vicino a casa e compro una power bank. Ok, intanto all'isola Edo, okay. Se n'è andato da una ventina di minuti. Cosa al gruppo? E anche... Cos'è che vuoi? Io devo dire una cosa al gruppo. Oh raga, sto ordinando la cena su Just Eat, io prendo un kebab, voi cosa volete? E basta, vi prego. Se volete, se mi sta per dirmi che dobbiamo abbatterlo per farlo smettere di soffrire, posso capire. Cioè, se ci fosse la protezione ambientale e animali qua vicino, lo porteremmo lì. Però a questo punto lo abbattiamo. Cioè, una botta in testa e via. Per la roccia. Ok, dicevo, e intanto nell'isola sono passati 20 minuti, mezz'ora, e ancora Edo non si vede. Noi mo che possiamo fare, abbiamo perso anche Edo e... dico, intanto io continuo a parlare con il dottore. Tra l'altro Edo è l'unico che sopravviverà. Ma in effetti quindi è strano che non abbiamo trovato del connettore Z, nonostante ci fossero degli Zankis. Sì, io non so di altri casi di Zankis. Lei sa dove potrebbe essere questo connettore Z? No, perché chiedo giusto per... Vista che ce ne sia sull'isola, quindi il connettore Z, ha qualche idea dove sia, da dire qualche... mi sembra strano che non ci sia se ci sono degli Zankis, di solito è presente. Ma io non ne ho un po' con te, giusto per sapere come è fatto. No, io non faccio uso di queste cose. Sì, neanch'io, mai. Okay. Viene bene la parte del drogato. Sì, va benissimo. Gli altri? Io non so cosa fare perché l'altro non si vede. Il tizio non mi fido. Di chi non ti fidi? Del dottore. Vai, vai. Ma a raccogliere le idee su quello che, diciamo, allora, cosa ci manca da vedere sull'isola? Cioè, trovare il tizio del professore, se è ancora vivo. Esatto, questo se c'è. Però diciamo, vai, scusa, ma restando sulla costa a questo punto, potremmo arrivare nella zona dove abbiamo visto il fumo? Non era sulla costa, però potreste andare in quella direzione. Esatto, quindi noi si vede il fumo da qui, voglio dire, è fumo? Cioè... No. No? No. Rimasto il fumo, l'atollo lì, vabbè, laghetto con in mezzo l'isoletta che non abbiamo visto. E poi un'altra cosa che a me ha insospettito, cioè a cui non abbiamo fatto attenzione, era il fatto della caverna del disegno. Sì, ma no. Quello, cioè, non si è manifestato nulla per ora di suo naturale, nel senso... Esatto, cioè, stavo pensando, scusami, è qualcosa tipo qualche calamità per cui per proteggersi questi sono messi sotto la caverna, quindi non lo so, magari... È anche un pericolo che corriamo anche noi stando sull'isola, non so cosa dire. Io sospiro e dico: chissà dove è finito Edo, e magari ce lo stacco di nuovo. Edo. Su. Allora, senti un po' lo stress, perché comunque è una mezz'ora che sei lì in giro. Hai cercato un negozio, hai comprato un caricabatterie, e ora però devi attaccare da qualche parte. No, ho comprato una power bank. Scarica. Come scarica? Le vendono cariche? Un po' sotto. Ah, sì? La mia era carica quando l'ho... Io l'ultima che ho preso era carica. E tu consiglia, però dipende anche da quanto tempo stanno in magazzino. Ok, tira un dado percentuale. Ok. 56. C'è il 56% di carica. Ok, allora attacco il telefono, lo accendo, mm-hmm. e chiamo la mia dottoressa. Ok, intanto ti arrivano uno sbandello di messaggi da tipo milioni di persone. No, metto cioè, stacco il 3G, stacco tutto. Ok, e pronto, ciao. Ciao Anna, sono Edoardo. Non è che per caso sei in zona San Benedetto, perché mi servirebbe una ricetta di un antibiotico. No, sfortunatamente sono in vacanza. Porca puttana. 92. Sai se qualcuno può farmi una ricetta così un po', cioè se vado in una farmacia, non so, magari c'è qualche modo. Scusa, ma se il medico va in vacanza, ci deve stare ovviamente quell'altro, non può andarsene. Cioè, sì, se lo studio è in culo ai lupi, quell'altro sta in culo ai lupi. Hai ragione, non è così. Guarda, passa un attimo in studio e chiedi al volo al tizio che è lì. Grazie. Altrimenti, diciamo che se passo in farmacia per un semplice antibiotico, così non... Tira sul sociale. 3. Mi sa di no, mi sa che serve comunque la prescrizione firmata e quindi... Tra l'altro un antibiotico come? Non so cosa prescriverti. Generico. Perché credo che... Cioè, quali sono i sintomi? Perché mi sono ferito e credo si sia infettata la ferita. Vabbè, ma allora magari non serve un antibiotico, magari basta che la disinfetti bene, prendi un antinfiammatorio e domani starai meglio. Se fossi in una giungla e ci avessi messo del sangue di Marco. So. Esatto. Va bene, grazie. Ma figurati, non sarà niente, basta un antinfiammatorio qualsiasi, prendi un Oki e domani stai bene. Tu. Vabbè, oh, io quello che potevo fare l'ho fatto, sti cazzi. Vabbè, quindi ho antinfiammatorio, tipo alcol, acqua ossigenata per disinfettare, così provo a tornare nell'isola. Quello che potevo prendere l'ho preso. Okay. Allora, perdi un punto fatica? Beh, ci sta, dai. Se non sei proprio della vita. E fa una prova di fatica. No, non c'è tutto zero. Se c'è una, vinci per forza. 2 su 3. Non è un gioco, questa vita. E fai un tiro di controllo. 2. Ok, arrivi non troppo lontano all'accampamento. Ma dai, ottimo. Oddio. Si è fatta sera intanto, perché gira e gira, insomma, sta tramontando il sole. Vabbè, io direi che li raggiungo, però... un po' di soppiatto, nel senso che se posso evitare di farmi vedere direttamente dal dottore o dagli altri, sono più contento. Ok, e cosa fai con la roba, scusa? La avvicino un po' e poi prima di avvicinarmi ancora di più la lascio, mm-hmm, per cercare di non farla vedere. Ok, dopodiché? Tipo, cioè, chi vedo loro per prima, chi vedo per... No, loro sono sotto la tettoia. Ok. Allora mi avvicino, cioè li raggiungo a sto punto. Ok. Edo. Vedete Edo che si avvicina. Un po' affaticato. Ma chi ci sta? Edo, cosa è successo? Dove eri finito? Seguitemi, ora vi faccio vedere. Vedi che il professore alza gli occhi. Dottore, spero. Il dottore, scusa. Oh. Attenzione. È un lapsus. Ops. Anzi, non dico seguitemi, dico uno di voi venga con me. Vado con lui. Ok. E vabbè, lo porto dove ho lasciato le provviste, le medicine, l'acqua e... Dove hai trovato tutto questo? E non abbiamo mai ancora visto usare il suo potere di teletrasporto. Sì, l'avete visto. Ah, ok. Ma non l'ho usato. L'hai fatto veramente? L'ho usato per provare a teletrasportarsi e andare tipo a 20 metri di distanza. Ah, ok. Sì, ma il dottore mi ha detto pure... Tornare a casa. Sì, credo che posso tornare solo io, però non è sicuro che io mi teletrasporti nel posto giusto. Beh, sicuramente più che sufficiente. Questo è tutto quello che sono riuscito a raccattare, ho avuto diciamo anche un po' di disavventure, ma questo è quello che sono riuscito a prendere. Vedremo di farcelo bastare, grazie mille. Aiuto a me a portare i medicinali al dottore, a vedere se riusciamo a fare qualcosa per... Ok, quindi mangiate, facendovi vedere o no? O mangiate radici? Condividiamo qualcosa anche con gli altri? Quanto hai preso con te? Ho preso uno zaino abbastanza grande, tipo di quelli da viaggio, e ci ho messo più roba possibile. Quindi salla? Ma avete più o meno razioni per 2 giorni per tutti voi... Noi 6 o tutti noi del gruppo? No, voi 6. Dobbiamo intraprendere un altro viaggio verso il centro dell'isola. Forse conviene Sono un po' gli egoisti per stavolta. Di sicuro i medicinali consiglio di portarli al dottore, alla ragazza. Intanto portiamo i medicinali, poi pensiamo cosa fare col fiume. Ok. Quindi i medicinali li date al dottore? Sì. Ah, dove l'avete trovata tutta questa roba? Applicazioni, aiutaci. Tira su sociale. Io vedo. Edo. Ho 4. E ok, purtroppo non vedo niente che possa salvare Mary Ann, però magari allevierà il dolore. Se il nostro amico può fare qualcosa? Medica la ferita di Gava e gli dà un occhi. Un paio di occhi. Wow. Wow. Ho capito, è quello che gli hai portato. Cazzo. È arrivato il kebab. Che bello. Cosa ti servirebbe per riuscire a salvare Marianne? Sicuramente antibiotici. Tipo? Perché nome? Tipo degli antibiotici generici. Okay. Ah, Jericho andava bene, cacchio. Di quelli senza prescrizione. Non esistono antibiotici senza prescrizione. Oddio, magari lui è tedesco, in Germania sì, non lo so. Edo, ti va di fare un viaggetto in Germania? Ok, detto questo, immagino che andiate a dormire. Edo, pensi che non pensi di riuscire a procurarti degli antibiotici entro... Per oggi no. Mm. Posso andare a dormire e farmi un altro giretto, ma... Non possiamo fare altro al momento. Secondo me no. Dormiamo. Ok. Andate a dormire e fate i turni. No. L'accampamento, chiedo al dottore, ci sono stati pericoli durante la notte in questi giorni? O... No, in questi giorni è stato tutto tranquillo, a parte Owen che si è... Beh, insomma, si è suicidato. Come ha fatto? Ha sbattuto la testa fortissimo, non so, non è scritto nell'avventura. Devo metterti un po' in difficoltà. Okay. Ha usato le corde che avevano fatto per impiccarsi a un albero. Che fine. No, se dicono che non ci sono stati pericoli o avvistamenti o del genere... Wow, cioè. Ok, allora andate a dormire, recuperate tutti 10 punti ferita a ogni locazione, tranne Gava. Non è un problema quello, io. E recuperate tutti, compreso Gava, 2 punti fatica. E vi svegliate. Aspetta, devo tirare? No. No, non tiro... Li recuperi, non li prendi. Ah, ok, niente. Pensavo si dovesse tirare comunque. No. E vi svegliate sentendo degli urli e aprendo gli occhi vedete Vasili, quel tizio strano, in un angolo. Lo vedete che gli escono delle strane punte dalla testa. Sbava, ha un coltello in mano e sta continuando a urlare. Il quinto sta arrivando! Vi ammazzerò tutti e vi porterò al tempio. E qua si conclude. What? L'episodio 8. No. 8. 8. Di Zeros. Non sapevo che quello non mi ripetava. Chi? Ma meglio, io ho scritto 8 poi. Magari c'è un problema della cute, che ne so. Ok. E basta. Okay. Ciao a tutti quelli la che ci hanno. La storia si sta evolvendo, non facciamo punti esperienza per gli spettatori o chi se ne frega gli spettatori. Bene, dopo questo vi salutiamo, buona serata. Ciao ciao. Alle prossime avventure.